Ha fatto una faccia bruttissima, passiamo un po' più. Parliamo con la diretta. No, basta il livello. Sai, con sei in diretta. Era ora. Ecco. Ah, c'è il replay, vedi? Non avevi sentito bene. Allora, mentre cerchiamo di far partire anche il digno, benvenuti al decimo episodio di Coloni. Giocheremo a Dungeons and Dragons, quinta edizione, lo sapete ormai. Facciamo tra poco un piccolo ripasso. Mentre proviamo a rimandare digno, mandiamo la sigla senza ulteriori esitazioni. Ne hai avute anche troppe. Se va per un lo vedi? Se. Qui Skype è vivo, vive vivo e vive lotta insieme a noi. Allora, forse sta passando. Ok, con la sigla direi che può bastare. Va, dissolvente, dissolvente le basi. Cazzo, mi ha messo la cosa un centimetro. Va bene, allora, benvenuti al decimo episodio di Coloni. Noi siamo Tycoons & Dragons e ci potete seguire. È il decimo episodio oppure non siamo decimati? Stasera ci siamo tutti. Stasera siamo al gran completo e siamo Tycoons & Dragons. E con me Andrea Giacomo Vecchi da Bologna ci sono. Al gran completo Luca Lazzarini, Giulio Bosi, Stefano Gamberoni, ebbene sì, e Enrico Catabriga. E da Marsiglia abbiamo anche Edoardo Saladini, che forse sentirete, se si farà sentire. Per il momento non lo vedrete, ma aspetta, forse gli fai venire il mal di mare. Forse tra poco lo faremo vedere persino lui, se riusciamo in qualche modo, se capiamo dove è finito Skype. Allora, Salla, lo sai che ha distrutto il cellulare di Laz. Facciamo una cosa, aspetta. Salla, ti fermiamo. Salla, ti fermo. Lo devo cambiare il capo. Sì, vai. Gli ha fatto, cadere il microfono sopra. Salla, ti fermiamo subito. Sì. Salla, guarda, ti fermiamo subito che ti proviamo a richiamare. E ti proviamo a richiamare da qua e vediamo se funziona. Per cui aspetta che ti chiudiamo. Se riesco a capire come cazzo funziona sta cosa. Se no chiudi tu che mi faciliti la vita. Bravo. No, non l'hai fatto. Vabbè, allora lo faccio io. Ciao. Allora, dov'è? Eccolo qua. Qualche problema tecnico oggi ci ha fatto ripartire in colpevole ritardo. E sapete ormai che la nostra tecnologia è un po' avariata. Se volete aiutarci ci potete finanziare. Mi dispiace, io non sono con gli storici. Ci potete scrivere un messaggio su. Allora, abbiamo Salla, ce l'abbiamo. Ora dobbiamo soltanto metterlo visibile a tutti voi, a tutti noi, e magari metterlo anche di qua. Esatto. Se Sob ci facesse il piacere di rispondere alla chiamata, sarebbe meglio. Eccolo che ce la fa. Allora, adesso aspetta che forse riusciamo a rimetterti. Sì. E vai, ci abbiamo anche Dora Saladini da Marsiglia, attenzione. Starà con noi ben un'oretta. E vabbè, insomma, farà quello che può. E va bene, allora, adesso da capire qua come si fa a farlo al massimo. E va bene, allora, come dicevo, noi siamo Tycoons & Dragons, ci potete seguire sulla pagina Facebook Tycoons & Dragons, ma anche RGDR. Salla, se hai tempo magari condividi su RGDR, perché come hai visto oggi io con la tecnologia non ho grande feeling. E... Ma potete seguire anche sul blog ripgdr.wordpress.com. Guarda come lo indico. Ecco, lo indico qua sopra la testa di Giulio. E, no, non funziona. Va bene. Allora, dopo aver spaccato un fuori dalla diretta un telefono di Laz e forse un microfono, e possiamo partire. E ci fa il riassunto qualcuno che era presente l'ultima volta. Può essere Salla, così ci parla. Può essere la. Io sono già stato interrogato volta scorsa. Fate un ridere. Lo faccio io. Raga, se non volete fare il riassunto, venite una volta sì, una volta no. Come cioè, faccio ragazzi, io? Che dai, non mai. È che ci vuole molto. Su, allora. Devo insegnare tutto. Eravamo rimasti. No, tu fai una volta no, una volta no. Non è arrivato. Quindi questo non serve più. No, eravamo rimasti che. E avevamo trovato come farci spedire a Tana dell'Orso. Ecco, come avete fatto? Raccomandata. Ditelo a chi non ha seguito. Raccomandata. Che ci sta anche come battuta. Io no, abbiamo seguito il consiglio di Sceo che ci ha dato al telefono. L'avete fatto ottimo. No. Assolutamente no. No, allora. Proprio no. Proprio no. Strano. Proprio no. Niente, cazzeggiavamo. Quello è proprio stato ignorato a un certo punto. L'Asa ha deciso di andare verso i cani per fare qualcosa con i cani. Okay. Vabbè, è un'altra delle opzioni. I cani hanno fatto qualcosa con li ha liberati come te. E i cani l'hanno seccato. Su serio? In quel momento siamo arrivati io e Salla. Mentre lui moriva contro i cani, siamo arrivati io e Salla. Io ho sparato un fulmine che ha distrutto i cani. E il mio corpo. Ma lui era già morto, quindi. Eri morto? Beh, ero terzo. No, era zero. Ok. Sì, doveva tirare il dado per me. Non era ancora morto, però, dai. Non morto, ma era morto. S'ha pensato lui. Io ho sparato un fulmine, così ho beccato un nero, subito. Giusto. Poi sono andato io. Questo è andato lì e l'ho curato. Porta qua le patatine, magari. Poi siamo scappati. Abbiamo incontrato alcuni di quelli che avevano pisciato una vasca dell'Otaria, che a mezzo ubriachi volevano attaccare Briga. Oh, come? Però mancava lui, quindi non ero cattar Briga. Io sono stato molto bravo e non li ho uccisi. Però ha ucciso l'As e i cani. Ma li ho solo sparati via con una raffica di vento. Vabbè, no, notare non li hai uccisi. Il riassunto è incentrato sulle sue azioni. Sì, non l'ho fatto solo io. Hai controllato che fossero vivi, Giulio? No. Vabbè, sono rimasti a terra, però non erano. Non li ho uccisi. Poi siamo tornati indietro verso la locanda. Ne abbiamo incontrato che stava vomitando l'anima. Il secondo lì, quello. No, era morto. No, stava vomitando l'anima in quel momento. Il piccoletto? Sì. Il burocrate, per dire. Sì, Quips. Poi è arrivato Coso, Brad Wayne, Cabe. Mm-hmm. Ci ha detto che ci avrebbe pensato lui e noi ci siamo andati e abbiamo lasciato lì. E in pratica il giorno dopo abbiamo scoperto che... Che ci avrebbe pensato lui a cosa, scusa? No, al tizio lì per terra. Ah. E un giorno dopo abbiamo scoperto che il tizio era stato trovato morto. Che la colpa era stata data a alcuni di quelli lì che io ho... Dell'Otaria. Esatto. E che alcuni erano stati impiccati. Cioè, condannati a morte. E Cabe era diventato il secondo in comando del... Cioè, ha preso il posto del tizio morto. E Salla ha cambiato persona. Esatto. E ci ha messo sulla nave delle puttane. Per questo raccomandato. Che è una nave piena di prostitute che una volta ogni tanto va a Tana dell'Orso per far sfogare gli istinti. La famosa Baldrarca. Esatto. Quindi il simpatico Cabe ha preso il posto del burocrate e rimane lì. Quindi. Sì. Si è unito a noi questo guerriero. Al mio PG si dispiace un po' di questo arciere. Che sembra voglioso di mettersi nei guai. È un guerriero o un arciere? Perché l'ha detto tutti e due. È un guerriero che tira con l'arco. Di solito, la maggior parte delle volte. Come tutti i guerrieri del D&D 5.0 sembrerebbe. In effetti. Ero fortissimo così. Tum. Quindi insieme abbiamo preso, siamo saliti sulla nave, abbiamo salpato. A un certo punto, mentre navigavamo, abbiamo visto che c'era questa nave di pescatori con dei problemi. Ci siamo avvicinati, cioè, e il problema era solo uno. Delle scialuppe, abbiamo calato in acqua le scialuppe e ci siamo avvicinati. In pratica la barca era stata attaccata a questo squalo gigante che ha iniziato a saltare fuori dall'acqua a cercare di mangiare l'as. Lui non lo sa, hai seguito la puntata scorsa? Quindi è un grande successo per gli animali? No, beh, vai avanti. Tu praticamente hai guidato una delle scialuppe. Sì, facevi il capitano. Facevi il capitano di una scialuppa. Come giusto che sia. E c'era sto squalo che continuava ad attaccarmi. Non bello, perché quando i vostri personaggi c'è sempre qualcosa di strano. Vest continuava a dire, ma quindi non ti ha curato tutto Giulio Sanguini? E continuava ad attaccare me. E allora a un certo punto mi sono fatto così e ho sporcato te di sangue. Però non ti ha attaccato. Perché? No, però tu Katta hai assistito un sacco perché... Volevi che lo squalo fosse portato per riprendere lo squalo, hai rischiato tipo di uccidere tutti quelli che erano rimasti sulle scialuppe per recuperare lo squalo. Non so se ho interpretato bene il tuo personaggio. Durante lo scontro, lo squalo ha rovesciato una scialuppa. Io ho fatto fulmine lì e ho ucciso tutti quelli che c'erano. E non ha beccato lo squalo. No, no, un fulmine di acqua, cosa succederà? Scusa, ma non era il personaggio buono. Non l'ho fatto apposta. Ma vuol dire un fulmine in acqua? C'è della gente più acqua, in acqua. Che non l'ho fatto apposta. Che ma c'è? Cosa? Ah, se no, lo squalo ci avrebbe mangiati tutti. Sacrificane pochi. Li avrebbe mangiati comunque. Cazzo di squalo. Li sto salvando. Credete voi? Aiutaci. Conta che con un morso tirava giù metà della nave di pescatori. Con tre morsi ha iniziato a farla affondare. Li hai uccisi tu. E non lo squalo così. No, gli ho ucciso l'elettricità. Gli ha presi lui almeno. Ha ucciso l'elettricità, siamo lui. Che andavano sott'acqua. Gli ha uccisi un fulmine. Se loro si immergevano erano salvi. Comunque, devi avvisarli. Tanto per i pescatori sono diventato un idolo. Io ho anche convertito la mia fede. Anche se ne hai uccisi la metà. Non ho ucciso i pescatori, ho ucciso quelli della nave sulla scialuppa che erano venuti per salvare i pescatori insieme a noi. quelli della nave magari non erano felicissimi, i pescatori mi hanno ringraziato molto. Come tutti noi, del resto. E poi poi dopo abbiamo continuato a viaggiare, è arrivata sta tempesta, abbiamo fatto uno scontro contro un elementale dell'aria e poi abbiamo vinto. Quindi non siamo ancora a Tana dell'Orso, ma siamo in viaggio. Esatto. Ok. La prossima volta faccio i riassunti tipo Vangelo. Giulio comunque si sta sbizzarrendo con i... Sta diventando anche bravo. Molto bene, allora, avete capito? Allora, la tempesta l'hai detto? Sì. Ok. Non ci ascoltavi? No, fai sì, un po' la risalita della situazione. È tutto qua perché io non prendo più appunti. Come si chiama il nostro nuovo compagno di avventure? Esatto. Ok, quello non lo ricordo. Ah no, sì. Salla, però sarai qua per poco, però. Caga. Se vuoi scusate, se vuoi partecipare quel poco. Di questa roba avete mangiato dalla licona di Skype, ditemi. Si chiama Filippo. Chiedevo il tuo nome. Siamo Filippo. Ma mi sono già presentato con te, solo che tu non mi hai risposto. Perché mi hai risposto Giulio al posto tuo, hai detto è uno sordo. Cieco. Comunque mi chiamo Filippo Longkeeper. Ok, minchia casino sarà sta roba. Vabbè, facciamolo. Va bene ragazzi, voi siete appunto su. Piacere, mi chiamo Ray. Misterio. È già successo. Vabbè. Piacere. Dopo per scontato che mi cambiano, te lo dico ogni giorno. Sì, sì, tu sei. Sì. Quanti utilizzi hai? Cioè, io ho ancora pieno, non ho segnato niente, non essendoci, ovviamente. Ok. E te ne togli. Allora lì ce n'è. Com'è la situazione? Dimmi. Avevamo 10 tinte. e 70 trucchi, quindi in sostanza erano 10 settimane se ricordo bene. Mm-hmm. Allora ti togli 1 e 7. Cioè è passata una settimana? Sì, una settimana. Ti togli. Okay. Già passato una settimana. Vabbè, sì, mi viaggio già. Ci sta. Scusate, dopo lo scontro con l'elementale, cosa succede? Allora, dopo lo scontro con l'elementale, praticamente aveste. Praticamente la nave viene comunque sospinta non più da, tanto dai venti, ma dalla corrente. C'è una forte bufera. Quindi il capitano della nave. Deve in qualche modo cercare di salvarvi. E si avvicina. Per farlo, si avvicina a questa isola che potete vedere nella mappa, che si chiama Isola degli Albatros. Aspetta, che ve la faccio vedere anche a livello. Perché ci sono tanti. Ci sono tanti pipistrelli. Exp. Guardate qua nella mappa. Allora, no, voi siete partiti. Guarda, scemo anche tu. Che magari sei. Lui è Katta, anche Katta magari. Okay. Voi siete partiti da Varkard e risalirete sopra. Per andare fino a prima a Kafkern e poi dopo a Tarnabros. Quanto dura il viaggio totale? Una vita, quindi tantissimo in realtà. Dura un po', adesso non me lo ricordo. Però... Vabbè, però c'è l'avventura e il viaggio. Sì, per ora è sempre stato così. E, la tempesta vi ha preso più o meno a questa altezza e ora voi siete più o meno vicini all'isola degli Albatros. Il capitano vi ha portato praticamente in quella che è una secca di fatto, tant'è che l'episodio di oggi si chiama secchi. La secca. Basta che non ci rimaniamo secchi. Esatto, con l'Az che era contento perché poteva fare 26.000 battute stupide oltre alle sue normali 150.000. E va bene, ragazzi. Ma allora, ma perché dobbiamo aspettare che la tempesta passi? O perché siamo finiti in una secca e qui non perché deve fare dei pesi con la ragazza? Scusa, non sono di solito in carne. Si vede che Katta andando a fare il primolo ha trovato una un po' più magra e siamo finiti nella secca. Grazie, Lasso. Prego. Quante ne hai? Falli fare 2-3 così. Mentre non ti ascolto, fai 2-3. Per me ogni tanto un'ispirazione, per questo gliela dovresti dare. Esatto. Non le fa il suo personaggio, le fa lui, quindi no. Mi motiva dopo a farla, se mi dà l'ispirazione. A parte esatto, cioè, se lui mi facesse un personaggio che dice cose stupide di base, potrei starci, ma lui le fa così, cioè non è il suo personaggio. È dittatura. Potrei scrivere il mio personaggio stupido. Beh, visto quello che ho fatto coi cani. Cioè, ma tu sei nato là e hai aperto le gabbie e ti hanno salito. Sì, ma era, cioè, era nei piani in realtà per sostituire, solo che mi ha fatto 3 critici. Non è che no, okay, questo dettaglio non era non era fondamentale. Vabbè. Beh, insomma, ma cioè, morto, cioè. Tu cosa volevi fare? Scusa. Dovevo farle scappare. Avevo il cibo. In tutto questo Katta si è fatto la cameriera. La cameriera che è l'unico motivo per cui siamo riusciti a saltare. Non è vero niente. Sulla il mio piano di far mangiare la cameriera dai cani non è stato cagato, però era più geniale. Oddio. Ma... Sì, il mio piano è stato molto considerato, la mia idea. Sì, no, è stato tipo super, cioè tipo è stato subito depennato dalle possibilità. Non c'eri, se tu non l'avessi detto probabilmente l'avrebbero anche preso. Esatto. Va bene. Qual era la tua idea? Non avevo un'idea, però deve cercare il latte. No, il formaggio, cosa che era? Che idea idiota. Era la cosa tipo più semplice probabilmente. Che idea idiota. Apro la prossima volta mi sa che vieni. Ah, se io non voglio fare il riassunto, devo saltare almeno una. Giusto. Vabbè, non prenderà mai, dai. E poi la prossima giochiamo Urban Heroes. Ma Master, dimmi. Quanto ci metti? Secondo me sta facendo i mostri da farci. È che finché Skype non si collega. Ci siamo, ragazzi, no? State parlando voi. Non ho capito se siamo lì perché aspettiamo che la tempesta passi. No, siamo la tempesta ora è passato. No, lui vi ha guidato in una secca per, diciamo, salvarvi. Ah, okay. E solo che ora siete nella secca e quindi il capitano della nave. E quindi siamo bloccati. E quindi siete bloccati, bisogna ripartire, diciamo, facendo tirare un po' la nave con le scialuppe. Dove sono i delfini? Però per prima cosa, come sapete già... Posso dare una mano? Posso fare la folata di vento? Scusa, abbiamo il cadavere dello squalo. Resuscitalo? Non posso. ancora. Anche perché credo che si rimetterebbe a mordere qualcuno. No, l'avete mangiato lo squalo e anzi, se non sbaglio, Filip ha la sua mandibola, cioè può usare per... Ah, sì. Come trofeo, una come mandibola trofeo. Grande come una mandibola di un... ossa per fare le frecce. Ok, ma cioè, come trofeo hai tenuto la mandibola di uno squalo di 7 metri. Infatti è enorme. No, no, io ho fatto solo le frecce. No, tu Filip, ti è stata a te perché per l'hai ucciso tu. Ah, figo, non c'ero in quel pezzo, cioè non ascoltavo. No, c'eri ma non ascoltavi, io te l'ho detto tipo due volte, tu eri lì. Metin. Allora me lo segno. Sì, ma cioè, nel senso, è una roba tipo grande così, immagino. Molto più grande. E come cazzo... Una mandibola enorme. Vabbè, non è, adesso non è che sta passeggiando per strada, se c'è una cazzo di nave ce l'avrà lì, può mettersela dove cazzo gli pare, usarla come cazzo gli pare. Può farci un arco veramente lungo, perché comunque sarà una roba è ingestibile, diventa. Beh, un arco molto lungo. Sceo, fatti i cazzi tu, hai avuto la tua opportunità di farlo arciere. Esatto. Allora, no, non giocare con le mandibole. No, era quello. Allora, cioè, bisogna ripartire, però prima bisogna fare, come immaginate, uno scontro. Alcuni scontri, alcune riparazioni. Ah, perfetto. Ho un fulmine carico. No, io l'incantesimo coso di zero per le riparazioni. Mending. Me lo devi castare tipo 200 milioni di volte. Vabbè, tanto è gratis. Sì, ma vabbè, ok. No, avete bisogno ovviamente di per fare le riparazioni di legno, legno fresco. E quindi alcuni volontari, o meglio, chi è più preparato? Chi voi della ciurma si offre volontario? Cominciamo a rompere parti della nave intatte per aggiustare quelle rotte. Io volontario. Vabbè, anche io. Cosa cazzo? Sto cercando di aprire la cosa. Sì, allora, chiusa praticamente con le unghie. Vi viene chiesto se voi che siete così valorosi potete essere tra le scialuppe che andranno a terra per recuperare del legno. Tra l'altro voi avete anche una certa quale poi esperienza, certo, di voi in questo. Qualcuno dubita del mio valore? Ah, io. Non lo so, per lo squalo non sei stato molto. Non lo so. Tu per assurdo sei più utile con le navi, che io sappia. La nave no, è molto utile, conciata così. No, magari tu sei bravo neanche nel ripararle, conoscendole così bene. Senza legno però non le posso riparare. Su questo andiamo d'accordo. Andiamo all'IKEA a rubare. Io sono volontario, raga. Idem. Io posso riparare le crepe. Non è un edificio, Giulio. No, è una nave. Vabbè, è nel legno, le crepe nel legno. Andiamo a prendere del legname. Va bene, allora una scialuppa siete voi cinque e poi ci sono altre due scialuppe. Oh, ma sempre noi insieme. Cosa ho già vista? Sì, voi siete casualmente insieme. Vabbè, si è già visto comunque che Katta è bravo a guidare, quindi non c'è alcun problema. Venite immerse in mare. Io sono sempre di fianco a te. Mentre state navigando, però, vi tirate... No. E io mi butto dentro lo squalo per recuperare. No, no, ma ti buttare. Il gesto era perché ti buttavo a te dentro lo squalo. Oh. Ti tiriamo? Squalificato. Mi tirate. Siamo già a terra. No, no, siete ancora sulle navi. Siete ormai verso la riva, di un punto dove ci sono degli spogli. Tanto ormai. Hai il callo dello scelto. Siete verso la riva, ma ancora un po' manca. Mi tirate un perception. Usiamo il passivo. Lo so, infatti stavo pensando, però dai, ve lo faccio tirare. 18. Cioè, scusa, 10. 19! Perché comunque penso che voi siate attenti, stai guardando. 19 anch'io. Sì, non è vero, non abbiamo visto il tiro. Ci ha attaccato uno squalo prima, poi elementale. Ci sta comunque. 15. 19. Ok. Ho sentito un 14. 18. 10? 18. 18, va bene. Allora, tutti rimedio alti. C'ho più 4 saggezza. 6 più 4, 10. Cazzo, un attimo. 5, non è che. Praticamente vi accorgete che è meglio tornare indietro, che siete incappati, cioè ci sono strane cose, diciamo, nell'acqua che vi stanno forse per attaccare, o forse no. Tu che c'hai, però adesso puoi tirare l'iniziativa Thunderwave. Fai dei fulmini nell'acqua, cazzo. Appena vedi qualcosa che... Tranne Giulio, okay, che non se n'è accorto. Quindi iniziativa? Quindi chi ha visto, facciamo come nel vecchio stile, non so se adesso secondo me non si fa più così, mi tirate l'iniziativa. Scelgo quello lì, 15. Non vale. Come? Non ho ancora detto tirate l'iniziativa. La tirano sempre tutti, semplicemente sorpresi saltano il primo turno. Eh? La tirano sempre tutti. Chi è sorpreso salta il primo quindi turno. Quindi com'era? Una volta era così. È ancora così? No, tu no. Sei sorpreso. Sì, tira anche lui, salta il primo turno. Però. Ah, sì, ok, vabbè, se volete, ok. Sì. 16. Allora, fermi tutti. L'Asm ha detto... 16. Sceo mi ha detto... 6. 6. Katta mi ha detto... 7. Sceo, facciamo sempre lo stesso risultato. Voi? Giulio? 16. E sì, salta 6. Tra l'altro entrambi più 4. Sì, cioè, che sì. Sì. Salta 6. Ok, perfetto. Va bene... sta all'As. No, ma reagiamo dopo Giulio, così evitiamo che tu ci uccida. Esatto. Anche questo non è una brutta idea. Sta all'As. L'As, vedi delle robe che si stanno avvicinando. Vedo cosa si faccio. Stanno avvicinando. Non ho mai fatto nulla contro di voi. Sì, sono sbucate praticamente vicine degli scogli. Non ancora. Da sotto l'acqua, praticamente stanno venendo su, venendo verso di voi delle cose. E quanto sono grandi? Ottima domanda. No, non particolarmente dipende, grandi. Dipende anche da quanto è torbida. Taglia media. L'acqua non è particolarmente torbida. Però eravate all'ombra, cioè erano questi scogli e praticamente li vedete così. Giulio è immerso nei suoi pensieri a pensare alle tempeste, guarda il vento. Più grandi di una persona? No, sembrerebbero grandi come una persona. Quanti sono? Per adesso allora estraggo sono al centro della scialuppa. Un attacco. Vuoi preparare se vuoi? Sì, sì. Prepari quando vedi, spari, sì. Giusto? D'accordo. Ma qua è profonda ancora in questo punto. Dov'è il manuale? Mi passi? Diciamo che probabilmente potete, chi non è halfling di voi può toccare, però è molto al limite, sicuramente un po' impedito. Arriva alle spalle, tipo là. Abbiamo già attraccato lo scoglio. No, non dovevate attraccare lo scoglio, semplicemente che ci sono degli scogli qua vicino. Può essere che in alcuni punti su degli scogli si possiate stare, però ovviamente un pochino meno stabili. Sì. Potrebbe essere una buona idea continuare comunque a portare la barca fino alla riva. Dipende che cosa sono, aspetta, non l'ho capito. Vabbè. Quello sono io. E invece di far cazzate, dovresti farmi una bella immagine per la cosa. Questa è una cazzo di bella immagine. Va bene. E allora, cazzo, mi sembra onesto. E d'accordo. Allora, praticamente escono fuori queste creature un po' disgustose a vedersi, ma marittime in linea di massima, che sono un po' tipo armate di tridenti e lance, esatto, e che sono praticamente, si chiamano Sawagin, vabbè, questo voi non lo sapete, ma forse avete capito la... Mi sono perso il numero, quanti? Allora, dalla vostra imbarcazione esce fuori praticamente uno grosso con altri due, mentre escono fuori degli altri dalle altre imbarcazioni. Camminano, nuotano. Escono proprio fuori dall'acqua e vi attaccano. L'As però ha diritto, volendo, a colpire. Okay. Questi hanno praticamente sta faccia qua. Lato. Quindi la faccia più o meno di un pesce, però il corpo umanoide con le braccia e tutto, pesce. Degli addominali alla leonida, Però insomma queste facce con branchi, con questi denti, parlano questo linguaggio strano che sembra un po' inquietante, molto anche strano, simile anche un po' a qualcosa come se fosse un pesce che parla, qualcosa del genere. E sparso quello grande. Sì. E non ha preso turno, vado con vantaggio allora. Sì. 23. Sì, preso. Ovviamente non è furtivo, cazzo. Sì, sei vantaggio e furtivo. 16 di base? Sì, sì, base. Sei vantaggio. Il furtivo si attiva quando hai vantaggio. E hai anche... No, scusa, questo è l'arco, niente. Questo è l'arco, hai quindi ha critico. 4, 8. No, critico si è sorpreso. Si è sorpreso. Sì. 8, 10, 17. 17 danni. Totale. Va bene. D'accordo, tocca a lui. Vede questo halfling un po' aggressivo che prova a colpire. Non l'avrei mai detto. E prova a colpirlo anche lui. Ma nuotano o camminano? Ma hanno qui, si vede, hanno, se li avete visto proprio visti, che andavano velocissimi e nuotavano. E... però ora sono su per colpirvi e emergono dall'acqua. Nello specifico emerge quello grosso, non me lo sono scritti qua. Va bene. E prova a colpirti. 22 e ho 15. Quindi ti prende. 22. Ah, che bello, faccio più di 20. Vabbè, è uguale, posso dire o non dire, non è obbligatorio. 9 danni di mezzo. Devo po' anche questo non lo posso dire. No, però di solito non 5, quindi. 15 la tua classe armatura, giusto? Sì. Ok, quindi sì, 9, sì, ci vai 5, no, 5 danni, sì. No, 4 danni, 5 danni. Di mezzo in giù e su? Non mi ricordo, in su, 5. Credo, non so, tutte le volte scagliamo. Di mezzo in su, così. Va bene, emergono anche gli altri e vedono... vedono che ci sono due valorosi guerrieri. Oh, ma c'è anche un'altra imbarcazione, vai sull'altra. Guerrieri, non monaci. Però già che ci siamo. No, no, no, dico in generale, non c'è anche un'altra imbarcazione. Qual è la tua classe armatura, Sceo? 17. Mm-hmm. Sì, ma ti ha detto che nelle altre imbarcazioni c'è gente. Uno non ti becca. La classe armatura di Salla sono invece. Usciti anche dalle altre imbarcazioni. Ah. Salla, invece, quello dal tuo lato ti becca. Ti dà un morso. Aspetta, ci siamo guariti dopo la roba? Ah, ottima domanda. E avete avuto la possibilità di fare un long rest, sì. Ok. Va bene. E Salla, allora, ti dà un morso che ti fa 4 danni. E invece ti dà, e ti dà anche una lanciata, un colpo di lancia che ti fa 7 danni. E va bene, sta a direi, no, Giulio salta sto giro, oh. E sta a catta. Quindi quanti ne ho a portata di spada? 3 direi, tra cui quello già ferito dall'AS. Cioè in realtà allora sulla barchetta, allora io direi che dipende anche un po' come siete disposti sulla barca. Beh, ma è piccola, immagino. Beh, 2-2-1 saremo. Ok, chi è in testa? Beh, lui, immagino, si sta comandando. Catta in testa, d'accordo. E, fai tu a tiro, non l'abbiamo detto. Noi stavamo remando, immagino. Io non remo, lo sapete benissimo. Mi sono sempre rifiutato. Perché dove no, mi vicino, Giulio, quindi in teoria neanche tu dovresti remare. Vabbè, un paio di voi remano. Io sono il più piccolo e ho forza 8, quindi direi no. Laz e Salla. Vabbè, io e Salla. Salla e rimavano. Kat era davanti e quindi ci sono Giulio e cose. Vabbè, direi che comunque li hai portati tutti, se vuoi. Ok. Cioè poi anche perché ti puoi muovere. Sì, sì. Sì, si lascia il loop, insomma, sei lì però puoi colpire. Perfetto, lancio il marchio del cacciatore sul capo. Mm-hmm. Oppure se ha un nome. Il più grosso, quello lì. Quindi, se, e dico se lo becco, vi faccio un disempio. e parto col primo attacco. Mm-hmm. 18. Sì. Vediamo quanti danni faccio. Allora, di 8 più di 6. 14. Bel tiro. Sì, davvero. Sono 18 danni. Boom. 18 danni. Col primo attacco. È ancora in piedi? Sì, certo. Cosa vuol dire certo? Appena ho fatto il danno massimo. Avrà una coda, magari non è in piedi. Però. È in piedi. No. Allora si beccherà 18, anche il secondo attacco. Sì. Ok. Vai. Secondo attacco. 14. Per colpire 14? Sì. Fallisce. Peccato. Ting. Esatto. Va bene. Questa è la catta. Sta a... Chi ha più l'estrezza di Salla, l'estrezza di Sceo? 18. No, vabbè, dipende. Potete scegliere voi. Penso che ce l'abbiamo uguale. È la stessa. Allora potete tirare un dado oppure scegliere chi di voi andrà sempre prima dell'altro. Tiriamo un dado ogni volta così. Cioè la scelta no, è comincia tu, il mio personaggio è iperpassivo. Strano. E poi dai, alla fine è indifferente. Doveva farsi un personaggio solito per ignorare discorso la gente. Se ne ho uno a portata. Sì. Io meno. Ti ricordi che ho tre attacchi adesso. Quindi primo su qui vai e... quello grosso oppure uno dei... Vabbè, se sono a portata di quello grosso continuiamo a menare su di lui intanto. Boh, vai, sì, è indifferente. Tanto su quello grosso. 17. Sì. 7 danni, poi colpo senza armi, 23, sono altri 8 danni, e poi il secondo attacco col bastone, 23 di nuovo, e 9 danni. Quindi 8 e 17, 7, 8, giusto? 9. Più quello prima. Ho fatto 7, 8 e 9. Sì, sì, gli ultimi 2, 17. No, 8 e 9, 17. Ah, insomma, scusa, non avevo capito. Non puoi usare il fulmine qua. Ma ti uso Thunderwave. Sta Salla. Non so cos'è. Io ne ho ancora uno contro, no? Tanto avete tutti. Ah, no, è sulla costituzione. Sì, è vero, tu ne avevi uno contro, Sceo. Però, vabbè. Ah, allora non so. Non ho capito come sia. Cioè, tu ne avevi uno scontro in realtà. Quello che ti aveva attaccato. Esatto. Che mi ha quindi mancato. In realtà sarei dovuto andare su quello. In linea di massimo. Vuoi riportare i punti su quello? Non lo so, come vuoi tu. Dimmi, sì, dimmi i punti. Dimmi... È logico che ce l'avevo addosso. Sì, avrebbe più senso in realtà. Sì, ce l'ho addosso. Allora erano 7 il primo. 7, 8, 9 ho fatto. 7, 8, 15, 9. Ne ammazzi uno. Ok. Cioè, se col secondo attacco era già morto, il terzo no. Lo devi ovviamente. No. Okay. Col terzo l'hai ammazzato. Okay. Sì, Salla, ne hai anche avuto uno addosso. Ok, quanto è grosso sto tizio? Medio. Ok, quindi non è tanto più grosso di me. Mentre quello grosso è proprio grosso invece, è grande. Umano, mi sa. Avete capito? Mm-hmm. Okay. Sì. Cioè, di taglio allora io prendo le due scimitarre in mano. Mm-hmm. Oh. E... e basta. Ma come? Va perché? Bene. Anzi, vuoi farmi un tiro? Fammi un tiro. No, lo faccio il prossimo turno con vantaggio, perché ho saltato un turno. Questa no, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, però fammi un tiro, dai. 18 più 1, 19. Sì, va bene. E il fatto che non ho capito questo tiro è una cosa che okay, va bene, non voglio saperlo. E no, può anche dirtelo se vuole. No, era se non avevo capito io o meno. Va bene, allora direi che senza ulteriori indugi saliamo di livello. Las Giulio, la vostra destrezza, immagino che ne abbia di più. Las, va sì. E continuo su quello grande. Va bene. E sono sempre con l'arco, quindi vado con l'arco e in mischia adesso ce l'hai addosso, però non so come funziona. Sì, esatto. È arco corto. Sei in mischia. Beh, corto. Tiri con svantaggio. Lo svantaggio solo sulle balestre, robe grandi. No, a parte che resto, no, mi sa che tirare, okay, tirare in mischia comunque svantaggio. Allora cambio. Sì, a meno che tu non abbia il talento per tirare in mischia con la balestra. Anche lanciare un incantesimo a distanza. Eh no, ma è per quello. Avevo letto che nei talenti c'era scritto solo armi pesanti. Pensavo non si fosse svantaggio. No, c'è un talento che permette di tirare in combattimento corpo a corpo con la balestra senza svantaggio. Esatto. Essendoci il talento per le armi pesanti, pensavo che le leggere non lo avessero. Tutti i ranger. Beh, sì, ranger. Niente, cambio. Se devo perdere tutto il turno, dimmelo tu. E devi perdere il turno. No, dipende. Cambio tu armi. Tu puoi lasciar cadere l'arco. E puoi interagire gratis con un'altra cosa. Sì, però perde tutto il turno, nel senso che non può fare un attacco. Sì, esatto. Certo che può fare. Ah, sì, interagisce gratuitamente. Deve lasciar cadere l'arco. Puoi estrarre un'arma mentre fai l'attacco. Ah, ok, è gratuito. Ok, allora faccio così. Sì. Okay. Va bene. Fammi un tiro percentuale. Se l'arco cade in acqua oppure no. Esatto. Oh, rubo il tuo. Beh, tanto galleggia. Scegli un 50 da un ti dico una cosa dall'altro. Non ce l'ho un arco. Io voglio il 50 buono sopra. Ok. Non ce l'ho un arco comunque. 48. Finisci l'arco. Vabbè, sul bordo, dai. Vabbè, rubo il tuo, non è un problema. Ragazzi, o rubo quello di Salla. Io non ce l'ho. Sì. Rimbalza e finisci l'acqua. E vado per colpire. Vabbè, tanto. Va, arriva. Basso, 15, no, 13. No, non prendi. Beh, alla fine andrà a Riva, l'arco. Se siamo vicini. Se c'è arriva. No. Giulio, state. Allora, io per nessun motivo vado in acqua in questo momento. Perché sto per lanciare una tempesta di fulmini. Quello colpisce. Quello grosso. Con la tua lancia? Sì, con la lancia. Vai. Okay. Avevo paura di chissà quale bomba. Che becca ovviamente anche se stessa. Se la tira lì, come le strade distanze. Sì, in effetti stavolta sì. Non avrei potuto usare il martello da guerra. Ma la lancio. Tanto faccio due col danno. Quindi totale? Vabbè, 7. Meno non che non abbiamo più 12 o... Fai altro? No. Va bene, allora il barone vede che c'è davanti a lui un abile scondottiero che butta le cose in acqua. E poi lo vede anche ferito, tra l'altro, se non sbaglio. Che coglioni questa cosa ferita? Adesso sporco cazzo di nuovo. È palese che Betty ce l'ha con te, però non ti becca. No, ma l'ha detto che non mi vuole far giocare. Con un attacco non ti becca. Che a memoria di quello che fanno gli assassini. Con l'altro questo ti gioco becca. Sì, di merda. Però sei fortunato, Las. Perché non è critico? Ti fanno solo 9 danni, quindi puoi dimezzare. 5. Esatto. Sì. Come sei messo? Ah, sindacato dei giocatori, sì. Esisterà. Ok. C'era rimasto uno. Giusto? Solo in tre? Che era su, sì, che era su. Io il mio l'ho ucciso, quindi c'è quello su. C'era quello su Philip. Quello su Philip prima l'aveva colpito, giusto? Sì. Però quanti danni abbiamo fatto? No, sono anche lui, bello, mi piace. Sono arrivato a 17 più 7 però col primo attacco Filippo quanto hai di Salla? Quanto hai? 15. Ok, col primo lo manca e probabilmente anche col secondo lo manca, attenzione. Un po' mi manca Cable. Esatto. Però succede un'altra cosa. Sceo, tu ne hai appena ucciso uno, giusto? Sì. Esatto. Ne arrivano altri 1000. Però te ne arriva un altro. Che però tu non sei ferito. C'è un ulteriore che esce dall'acqua. Uno che esce dall'acqua. E però tu quanto hai di classe armatura? 17. Non ti colpisce. Non studio, ma... curiosità, l'altra scialuppa è messa uguale. Cioè, vedete che le altre scialuppe vengono attaccate anche loro. Sono l'auto. Tanti. Cioè, ce ne sono un po', sì. Però sono meno di quelle, sicuramente. Perché se ne aggiunge anche un altro. Sì, giusto. Che vede Katta sguarnito. Cosa vuol dire sguarnito? Che ti prova ad attaccare. Sguarnito. Questo sia significato nel dizionario. La classe armatura di Katta 19. Ok. E 19 direi che ti becca con entrambi. Ma che cazzo dici? E eri sguarnito. Con un morso ti fa 3 danni. Quindi 0. quindi 0. E quell'altro ti fa 5 danni. Quindi 0. Quindi 0. Chi li segni tu? Come fa? Ah, i PF? Non lo so, però sì, bravo. Voi. Quanto hai? 54. Ah, li te ne segnati tu, va bene, così no, ti metto la scheda dentro. Una volta mi tenevo io, però in verità in questa campagna sto facendo un po' di lassismo. Però, però fai i riassunti. 54 meno 3. Meno 3. Va bene. No, meno 2. 5 danni hai fatto, meno 2. Staccata. Mi devi un PF. Che sei contro uno, guarda. Il capo è ancora in piedi? Il capo è in piedi, però ce n'hai uno contro adesso. Lo ignoro. Lo ignoro. Oh, allora, solo io posso fare Giulio, eh. Cominciamo. Prima potremmo fare una campagna di tutti Giulio. Che no, sfiga. Chi sei? 26 prendi. E lo psio? 26. Sì, 19. Perché tu sfiga? 19, no, il dado. Chierico. Il primo chierico di Extor. Sì, Extor, quello ci vuole, cazzo. È uno spiegato del gruppo. Gli apparivano tatuaggi a cazzo. Col primo attacco. C'è l'elfo guerriero. Sì. Sei ancora in piedi, parte il secondo. Certo che sì. In piedi. 5. Ci sta. 22. Sì. Funziona i dadini. Uno più arrogante dell'altro. 13. Ok. Questo sarebbe curioso. No, in realtà questo mio chierico è anche... Che fatto? Al... Se non cade lo insulto. Sceo. Eccolo. E okay. Vado. Non anche lo psio non era arrogante. Allora rifaccio come prima. Ah, 12. Preso. Ah, ma i piccoli sono veramente piccoli, primo, insomma. Poi colpo senza armi. Ne prendi con niente. 12. Allora, tu ne hai uno nuovo addosso, sì. Scusa, hai fatto 6 primo e il secondo? 12 di a colpire. Sì. E 6 di nuovo. Altri 6 danni? Sì. Poi il secondo attacco col bastone, ma c'è che non prende 11. No. Peccato. E va bene. Sì, va bene. Basta, non sto a usare. Sta Salla. Allora io volevo attaccare con la scimitarra il tizio, con le due scimitarre il tizio che mi ha attaccato. Sì. E quindi comincio a tirare al primo attacco, quindi tutti e due. Vabbè, il tiro separato. Al primo faccio un bel 4 più 7, 11. Ricominciamo come l'altra volta. 11 no. Con la secondaria 12, 7, 19. Sì, preso. Ok, quindi questi sono cos'è, un D6, sono due danni? Non aggiungo la destrezza. Sì? Ah, perché? E poi col secondo attacco faccio un bel 2, quindi la manca. Va bene. Perché non aggiungi? Aspetta, il secondo attacco ha... no, ok, niente. Va bene. Volevo mettere cosa, ma lo devo dire prima. Ciao. Posso chiederti perché non aggiungi la destrezza? Perché era secondo attacco. Ah. C'è la seconda, l'arma secondaria. Ma non è finesse l'arma secondaria. È uguale. Ai secondi attacchi non si aggiunge il bonus. Il bonus, cioè lui l'attacca al bonus e i danni, esatto. Ai danni. Cioè la prima lo può fare, essendo finesse, ma non può. Ah, perché non hai la specialità, ok. No, perché il guerriero che ha Two Weapon Wielder invece lo aggiunge comunque. Il problema di base è che tutte le volte che incontriamo gente siamo in un posto di merda in cui non posso muovermi. Esatto. Beh, in realtà puoi. Sai nuotare? Sì. Vai a ripescare l'arco visto che... Forse nuota più veloce di te, però puoi provare a vedere. Las, sta a te. E ok, faccio sempre per colpire. Pure cecchina da uno sguardo. 18. Preso. Allora. Fallo fuori. È furtivo perché c'hai. Certo, infatti mi manca un altro da 6. Non c'è di che. 9, 10, 16, 20. 20 danni. Aspetta. Sì, esatto. Mi nascondo dietro carta. È una taglia più grande, posso farlo. È una taglia. Ah, sì. Sì. Posso farlo con la sottorazza. Cosa fai, però? Mi nascondo dietro una creatura di una taglia più grande di me. L'azione bonus. Non ho fatto nient'altro. Ti prendi l'attacco di curiosità. Ah, beh, disingaggio. Ok, e tiro per nascondere. C'è molto al limite. 22 qua. Però tu, beh, tu adesso hai attaccato. Sono tutti di taglia più grande di me, quindi non sanno come era in mezzo. Però è l'economia delle azioni che stavo contando. Tu hai attaccato con un'azione, disingaggio con la bonus e movimento con... per ma poi ti serve un'azione per nasconderti, giusto? Quindi mi sposto solo. Disingaggio e ti sposti in sennò, okay. Sennò... Sì. Vabbè, se no dovresti prendere attacco di opportunità. No, però non dico direi che niente. Evito. Sta Giulio. Attacco il tizio. Che lavoro vuoi fare da grande? L'economo delle azioni. 17. Preso. C'è chi lo fa. Parliamo quello grosso? In banca. No. Ho sbagliato a tirare i dadi. Vabbè. Ho tirato il danno dell'arco invece del D8 dell'arma. Vabbè. 5 danni. 5 danni. A chi? A quello grosso. Ha cominciato ad accusare. Sei stato tu, sei stato tu. Cazzo. Adesso cominciamo a vederlo un po' storto. Allora, domanda. Visto che io non sono in massa, dove spendere Enrico? Ma questo è un dettaglio. Se io voglio fare una prova per tirare giù uno, faccio una prova, faccio per colpire, poi forza. No, per buttarlo giù. Sì, per tirarlo giù. Shove a creature, che è una prova contrapposta. Di lotta, sostanzialmente. Sarà. Sì, lui usa la sua forza, l'altro decide... Scusa, in realtà puoi usare tipo anche destrezza, perché devi cadere dalla barca, quindi... Oddio, tipo però, aspetta. Però... Lui usa athletics. Chi viene colpito può decidere se usare acrobatics o athletics. Ok. Esatto. Va puoi bene. Evitare che ti tiri giù. No, spero è destrezza. Adesso ci guardo subito, però. Secondo me lui usa la forza, perché lui ti piglia e vuole tirare. Lui deve giù. Usare lui forza sì. La forza. Tu lui puoi sì. Scegliere, ha senso. Niente, la fa su Giulio. Ha senso in ogni caso, cioè puoi dire al master. No, io provo a tirare. Ma è una prova di caratteristica o di abilità? Ma ci guardo subito. È una prova di caratteristica, questa. Ho fatto bene ad allontanarmi, quindi, perché. Sarebbe toccata a me o il sospetto. Se vinci la prova contrapposta in maniera esorbitante lo tiri su. È come se fosse un attacco di fatto. Sì, perché tanto è bonus di forza per la competenza. È come la vecchia lotta, no? No, la vecchia lotta era... Non era il tiro contrapposto. Devi fare un dottorato di ricerca prima di capire la vecchia lotta. Beh, era il tiro contrapposto. No, mia... Prima devi fare un attacco di contatto. Proficio. Ah no, è vero. Era... Cioè, no, sì, la mia inspiration. Avevi la sì, prova... hai ragione. Usa la tua inspiration. Resiste. Qua. Beh, va bene. Non te lo sentivi? Shoving. Esatto. Aveva detto prima. Athletics contro prima o Athletics o acrobatics. No, va detta prima, dico. Se la vuoi usare, usa il vantaggio con l'ispirazione. Sì. Non puoi no, lui chiedeva se puoi guardare il tiro e poi decidere se usare. Acrobatics, athletics. Athletics. Si usa così. Si usa forza o athletics. Decide, athletics la vittima forza. Decide. Puoi scegliere athletics o acrobatics. L'ispirazione athletics. L'ispirazione per ritirare un dado andato male. Allora, puoi guardare prima l'ispirazione per ritirare un dado andato male. Adesso non so, non l'ho mai usato. Credo di sì. No, può usarla col vantaggio, usare direttamente il vantaggio. No, guardaci perché adesso secondo me cioè, volendo tira, vede com'è il tiro e poi decide se usare. Credo che l'ispirazione sia così. Adesso è l'unico controllo. Caso in cui puoi ritirare il dado di fatto in questo gioco. Vabbè, intanto tiro un dado. Vai. Intanto allora, vai, possiamo farla come volete, uguale. Ma mi sembra proprio che sia così, che lo dica. Ma adesso guardiamo. Riceverà il volo. Quanto fa? 21. Va bene, riesci a rimanere su. E che descrive l'inspiration. Il vecchio! A logica mi ricordo così proprio. Kat è ferito però. Sì. Lui è comunque un attacco ancora ce l'ha e prova a tirare un morso a Kat. Ma io lo posso considerare come un attacco questo. Che vuol dire? Cioè? Perché se uno mi colpisce come reazione posso fare una cosa. No, non ti ha colpito, ha dato pratica. Perché è una prova contrapposta. Dipende cosa si è scritto no, nel scritto hit. Cosa tira il bite. Si becca, deve fare una prova di destrezza, se no si becca due di otto. Fa tuono, fulmine. 12 danni. Ma no, no, wow, solo lui. Con un morso. Ah, non è andato. Okay. E mi colpisce nonostante la mia altissima CA. In realtà da come sembra che mi debba la mia altissima CA. Che? 19. Sicuro? Mi segni tu e segno io. Quanto hai preso? 12, no, cos'era? Quanti danni? 12 danni. Quindi meno 3, 9. Sì, da come è scritto sembra che lui lo debba dire mentre tira. Mentre non tira. È come il Lucky. Però quindi il Lucky è più forte dell'Inspiration. Sì. Fa strano. Il Lucky è più forte in assoluto. Esatto. A che pagina è l'Inspiration? Sì, noi quando l'avevamo usato l'avevamo utilizzato come vantaggio eventualmente. Vabbè, comunque è meglio per giù di non essere tenuta. va bene. Allora, ce n'era uno su Shea, uno su Philip e uno su Katta, di fatto, giusto? No, Katta aveva solo il grosso. Ma perché uno era morto e l'altro c'era anche uno su Katta. E cominciamo da lui. Fa... Hai ragione. Ti dà vantaggio. Quindi io dici prima. Tu fai il primo. Tu hai 19, giusto? Giusto, Katta? Yes. Non ti becca col primo. E non ti becca neanche col secondo. E sta quello su Sceo. No, direi su Philip facciamo. Allora, quello su Philip fa un bel critico con la lancia, direi, che quindi raddoppia. 10 danni. È andata bene. Il secondo non lo becca, però. Come sei messo? E poi c'è uno su Sceo, giusto? Sì. Che non è stato ancora ferito? Sì. Sei stato ferito? No, io no. Io non sono ancora stato ferito. No, no, perfetto. Quindi sì. E hai classe armatura 17. Non ti becca. È molto tranquillo che si è spostato il buon vecchio Laz. È molto tranquillo. Si è messo proprio dietro Katta. Sul limite della scialuppa. La cuppa, no. No, lui è esattamente al centro della scialuppa adesso. Dipende da dove era il mostro inizio, cioè, perché lui si è spostato per arrivare dal grande che era con me. Era sul lato, quindi tu sei messo dal lato opposto. Quindi sì. Sei potenzialmente esposto all'altro lato. Sì. Quindi non ti accorgi. Beh, ovviamente. Cioè ti accorgi quando prova a colpirti. Di uno squaletto che esce dall'acqua. E che cazzo? Si squali. Il figlio dell'altro. E ti dirò di più: che ti colpisce anche sto squaletto. Ti fa un critico, direi. No, ha rischiato però. Diverte. E ti fa però solo 7 danni. E poi risprofonda. La posso dimezzare, l'ho visto quindi, no? Hai detto o non l'ho visto? Ah, ottima domanda. Fammi un. Passi 14. L'hai visto. Allora di mezzo. Vai. Quindi fa così un morsino e se n'è andato. Esatto, smorzino e poi uscito. Per la soddisfazione di Vez, per la goodwill di Vez. E sta da me, Salla. Passi perception anche di Sceo, però. Come cazzo si. Scritto 10 più 1 il tuo bonus di percezione. Sì, 13. 13 non lo vedi, ma forse per te non cambia niente. Non l'ho mai scritto. La armatura però è alta. 17. E non ti becca. Allora vedi un altro squalo che arriva. E se ne torna in acqua. Diverso da su? Beh, sembrerebbe un altro squalo. Chi può dirlo? Tutti sembrano simili questi squali. No. Però arrivano più o meno in contemporanea. Sì, due attacchi in un turno di uno squaletto sarebbe un po' imbarazzante. È una squalo molto esperta in combattimento. Lui è l'economo. Sta a Katta. È l'economo. Sì, salito del 13% ultimamente. Se fosse caduto in acqua sarebbe stato un marziano con quelle squalette. Quindi. Fammi indovinare, ci c'è ancora lì. Cioè, io andavo in acqua, posso andare. Io non posso, becco un altro ceffone. Abbiamo buttato un po' di equipaggio in acqua. Ma ci siamo solo noi qua. Ci siamo solo noi. Primo fa 10, no, 13. Non lo becco. Ma sì, pensate che io adesso in acqua sia inutile. Secondo 17. Bene. Morto. Grazie. Il grande? Oh. Sì. Emetto un verso gutturale per far capire la mia superiorità ai suoi scagnozzi. Mi ha dato l'opportunità. No, scherzo, non è a 3.5. Spingo Katta giù dalla barca. Si diventerà il loro re. Va bene. Padrone. Si sottomettono alla mia possente. Ah, vuoi provare a fare un intimidation? Beh, ci sta. Cazzo, ci vai. Sta. Beh, un 12. È un 12. Beh, non è così male. So, penso. Dal... Che qui è? Dov'è? No, come si chiama? Intimidation. A metà. Sì. 12. 12. Va bene. Questo era... Katta, è finito il turno, giusto? Certo. Sta a Sceo. Quindi ho l'ultimo addosso. Sì, è ce n'hai uno addosso. Ce n'hai uno. No, ce ne sono quattro in giro. Ah no, ce ne perché sono gli altri. Viste concentrati sul cioè, c'è quello lì che hai colpito prima due volte. Lo squalo lo vedo. No, scherzo. Lo squalo per provare. Vabbè, provo a finire con una bastonata questo. Prende il pugno lo squalo. Cazzo. Venti. Critico, vai. Sì. Non mi è mai capitato nella quinta, quindi come penso. Raddoppi, raddoppio e basta, adesivi due volte o tiri due di uno. Ah, non possiamo far per due direttamente. Boh, cosa vuoi? Due. Non ho tutti quei dadi. Farò per due. Direi che ne hai quante ne vuoi. Ne prendo uno e te ne faccio per due. Per ora doppio solo una volta. Cioè, raddoppi anche i danni del coso, direi. Del base, sì. Sì, cioè, che no? No? Raddoppi solo i dadi. Solo i dadi? Solo i dadi? Tutti i dadi, ma il bonus no. Ah, no? Ah, okay. Okay. Quindi 14. Direi che muore. Era già ferito. Sì, solo perché hai visto con te. No, vabbè, dal primo che ho ucciso. E posso finire i miei attacchi su un altro? Sì. Quindi, secondo, cioè, allora c'è quello di Philip. C'è quello, ecco, quello accanto. Ce ne sono altri tre. Come siamo messi? Vabbè, più vicino sarebbe. Ce n'è uno su Philip, uno su Katta. C'è uno su, scusami, su Quake. E uno. Credo no, riesco ad andare sul modo da proteggere lui che lo vedo un po' in più in difficoltà. No, io lo so. Beh, vabbè, perché sei il più ferito di noi. Scusa, allora l'altro su chi è? Te l'ho detto che ce n'erano due. Che a me non tornava. Su Kat c'era solo il grande, non ce n'era uno. A me un piccolo mi ha attaccato, mi ricordo. Sì, adesso, però non prima. Sala su te è attaccato solo. Inizio. Mi ha fatto due danni. Ah, quindi primo turno sì. Un piccolo ha attaccato Kat. Ah, quindi non c'è. Vabbè, ok, adesso ve l'aggiungo tranquillo. Vabbè, dicevo, posso andare su uno che non c'è nessuno io adesso. Quindi... solo lo squalo, vero? C'è avuto lo squalo. Quindi poi... ce n'è un altro? Non lo sto capendo. Due. Uno su Quake e uno su Philip. Aiuto Quake, non lo so. Che aiuto vuoi? Quake è uguale. 17. Sì. Ah, 5 danni. Ok. E poi il terzo attacco. Sì. Sempre su questo. Ok. Fumble! Ragazzi, era da tanto che non lo facevo. Fatto 20. Salla! Perché era tanto che non lo facevo. Karma. Ah, io provo a attaccare ancora il maiale. Sì. Nel senso che dopo dove l'hai trovato un maiale? Che tipo sì. Di monaco sei? Sì. Primo attacco, io. 13, 7, 20. Sì. Perché? Il ceffone. Bravo. Ha la lancia in mano. Sì, dai, volendo potrei spendere dei chimici. Però gli faccio un disarm strike. Vai. Non ho ancora chissà. Quindi cosa. Intanto gli tiro i danni che sono un di 6 più un di 8. Che cazzo. Beh, oh, onesto. E 14 danni. Ok, perché è un attacco. 14 extra. Danni, ok. Sai quello che stai guardando. Che sfiga di merda. E deve fare un tiro salvezza sulla forza. O sulla forza, mi sa sì. No. Di base. Di base. Quanto devi fare? Non, è, non c'è da qui. Aspetta. Sì, sulla forza del, e la ce l'abbiamo tutti quello ho capito 15 controllavo se delle cose che ti davano dei danni aggiuntivi ok lo colpisco quello con la secondaria punti. 17 okay, colpito ecco. Sì. E sono e poi ho già colpo stordente sì. E sono altri 6 danni ok e a terra cioè a terra torna in acqua. E poi mi giro e vado su quello di Quake e gli do un altro attacco. No, con il passare dei livelli, però adesso è sì. Già un di 6 e non più un di 4. Cioè il mio e pugno. Sono 4-6 danni. 6 danni? Sì. Ok. Cioè, in realtà io e potrei, poi faccio action potrei no, attaccare vabbè, su non sto scherzando. Uguale. Cioè. Però avendo il bastone già da prima. Uguale. Va bene. E, d'accordo, questo era Salla, quindi il turno termina qui. Laz, quello suo è rimasto o è sì. Tornato sott'acqua anche lui? No, c'è rimasto uno su Quake. Ok, fatto. Vado 19 più 7. Cioè su tutti loro ormai, su tutti loro. Sì, preso 5, 11, 13, morto. 17. Muore. Grazie. E sta Giulio. Qualcuno ha bisogno di cure? Tutti. Io. Tu non ne hai 43. Quanto ferite hai? una decina di punti me l'hanno tolti. 14. Ne hanno tolto 21. Allora, l'altra scialuppa. La situazione. Vedete che le altre scialuppe stanno combattendo. Ne avevano. Ah, le altre, più di due eravamo. Eravate due, tre scialuppe. Ah, ok. Stanno combattendo, vedete la gente che viene uccisa praticamente, però anche qualche lontano. Vabbè, no, sono tanto lontano. Puoi lanciare un turno. Vez, quando è il mio turno, io tiro frecce ai tizi nelle altre scialuppe. Va bene, intanto. Io curo Salino. Va bene. Sono distanti le altre scialuppe. Saranno 30 piedi da voi. 13. Grazie. Altro? No, va bene. E da mezzo all'imbarcazione. La nostra? Sì. Ah, vabbè, dopo posso fare un tiro percentuale se rivedo l'arco? Prossimo turno, mi dici. Sì, sì, no. Penso che dai in mezzo alla vostra scialuppa. Percezione, semplicemente. Sbuca. Bam, bucando la scialuppa. Un altro Sawajin. Che visto che è lì a sto punto. Come ha fatto? Si becca gli attacchi di opportunità. È di legno la scialuppa. No. L'ha sfondata. È da sotto, sì. Che figo. Cioè, adesso la scialuppa è rotta a metà. No, c'è un buco. C'è un buco al centro. Al centro da cui è apparso questo. Adesso affondiamo. Sì. Che cazzo di buco. Vedi, no, una non su non l'avrei mai detto. Facciamo che. Sì, dai, lo vede su coso. Ti devo un dato percentuale. Sì, ma lui è più facile. Cioè, però sei anche ferito, no? Sì, però sarebbe questa cosa del ferito. Adesso, aspetta un attimo prima di tirare, aspetta un attimo. Ha fatto lui il buco. Non ci fai tirare per vedere se sarà qualcuno in quel punto dove sta. Va bene, dai, va bene. No, beh, se tutti lì ti fa. Non ha senso. Quindi si becca tutti. Cazzo il buco. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Che sia come volete. Tiratemi tutti un dado. Sì, la rotta. Il dado che volete. Dai, questo è divertente da fare. Non so. Cosa tiriamo? Un dado. Da 20? Da 20? Quello che volete. È uguale. Tutti lo stesso, però, magari. 3. 12. 3? 2. 2? Quindi tu hai fatto 13? Sì. 12. 12. Lui ha fatto 20. Ce l'ha merita, ha fatto 20. Chi fa 20 si salva e poi il più alto viene colpito. Io. Non vi è piaciuta questa cosa? Molto, sì, perché voleva colpire me. È stato tirato apposta un dio. Non ho parole. Si chiama insight. Quindi ti attacchi lui sul serio? Boh, sì. Perché no? Fabio non ha deciso così. Vai, con la io lancia, 9 danni. Allora, adesso ormai mi hai attaccato, va bene? Sì. Io non era quello che volevo dire, per vedere chi attacca, ma se qualcuno era nel punto in cui lui sfondava la barca. Sì, certo. Ormai non puoi più farlo, perché te la sei giocata male. In realtà no, eravamo tutti verso il bordo perché attaccavamo. Ci sei tu e ti impala sopra. 9 danni. Ormai è tardi. Direi che ci sta. Va lì e 9 danni. Di mezzo. Lo vedo, quindi l'attacco dopo, dici. No, non lo vedi. Ma hai detto che sbuca e poi mi attacca. L'hai detto tu. Mi hai dato questa bellissima idea del fatto che lui sbuca e ti colpisce. No, no, non lo vedi. Non lo vedi, non lo dimezzi. Dai, ma sei stronzo, però. Non l'hai visto, mi hai dato questa bellissima idea. Tu sei lì e... Però non è giusto. Te la sei giocata male tu, non dovevi farlo. Il tiro come non ti preoccupare, Scio. Perché tu sei fortunato che sei sul lato. Però ci sono gli squaletti. Dal buco guarda che vengono su gli squaletti, E se nel buco c'è lui. E ti manca. Mentre catta. E lo manca. Mentre Philip, qual è la tua classe armatura? Ma che cazzo di attacchi è questo? No, sono squaletti. Qual è la tua classe armatura? Fanculo, 15. Ah. Quindi mi stai dicendo che ti prendi 10 danni. Questa è la natura di Giulio. 20. Come cazzo? Come faccio mai ad avere 20? Come ad avere 20? 18. 18 c'è scritto. Lo scudo. Contro gli squali. Va bene, non ti prende, dai. Sei imbattibile, raga. Beh, armatura pesante. Lui. Si squali tornano giù. Ma a fondo allora, scusami. Sta. Ah, adesso voglio vedere se la nave va giù, lui deve nuotare con quell'armatura. Sta. In realtà l'armatura è un vantaggio allo stealth. Catta. Puoi nuotare quanto vuoi. Quindi è soltanto è assurdo, ma non hai fatto né la prova per vedere dell'arco né l'attacco? No. Tu avevi già fatto. Cosa avevi fatto? Già fatto il tuo turno. Hai ucciso l'ultimo Savage. Tu e Giulio avete già fatto il vostro turno. Ora sta Catta. Sì, io pure. Gioco ad ammazzare la talpa. Hai con, già fatto Daz. Sì, hai ammazzato il tizio. Che hai spuntato. Sì. 14. Lo becchi. Ah, giusto, con l'azione bonus trasferisco il marchio del cacciatore su di lui. 7 danni. Sì. Secondo attacco. 22. Sì. 7 danni. Ora hai invertito i danni. Altro? Fine. Sceo. Vabbè, continuo anch'io. 18. A picchiare qui. 18? Allora ti becca. Beh, adesso rompo il cazzo a cacca. 4 danni. Sei anche il cacciatore attivo, tutta la prendi danno. Tira destrezza. Non è concentrazione. Eh sì. Sì? Quanto devi fare? 15. L'ho letto e ho proprio esclamato: che figo, non ha concentrazione. Che non passa. Che cosa succede? Un'altra parte. Si becca 8 danni da tuon. Un fulmine. Ah, cazzo, è perché è scritto in quel. È scritto non nella duration. Vaffanculo. Non so se sono tutti di loro. No, da parte da me a lui. No, dopo lo tiro. No? Mia abilità, da dove arriva il suo fulmine? Ma per capire dove colpiva. Vabbè, dai, ci sta. Okay. No, no, se la becca solo lui. Non c'è l'aria. È una cosa da me a lui. Vai. Sta scemo. In pratica, quando mi colpisce... Sì, no, bene. Prende la scossa. 12 di concentrazione. Sì. Okay. Prende la danni. Metà dei danni subiti. Okay. Minimo 10. Esatto. E domanda, stiamo affondando? Sì. Allora io mi tuffo, vado verso tra... Io mi tuffo un paio di squadri. La barca. Io mi tuffo. Quanto c'è da qui alla riva? Hai detto in un paio di turni, in 12 secondi. Che cazzo di buco ha fatto? Ha fatto un buco e mezzo. Beh, con 5 persone, una scialuppa con un buco e mezzo. Quanto è grande sto no, buco? No, è morto, è appena morto. Grande come un sauro. Il suo cadavere adesso però adesso la cosa giusta, il cadavere non tappa il buco. Non possiamo sfortunatamente no. Tirarlo. Dicevo, quanto c'è da qui alla riva? Più o meno. E quanto nuoti? Non ne ho idea, non ci ho mai guardato. Non lo so, ci saranno... Quanto si nuota? 90. Oh, 90 piedi, cazzo ne so. 90 piedi? Ma nuotiamo o camminiamo? Allora però, sì, chiaro. Io direi che si può remare un po'. 30 piedi sono 9 metri, 18, 27 metri, 30 metri. Farmendo. 50 metri, c'è cioè 50 metri. Io faccio... No, non ho capito. No, te non fai un cazzo. Sì. 50 metri dalla riva siete. Remiamo per due turni, cercando sì. Perché è pieno di squali. Direi allora di evitare sì. Di buttarsi. No, pensavo ci fosse meno, avevo capito meno. Allora sì, provo a prendere i miei incitoliati. Voi remate, io e il prete svuotiamo dall'acqua se riusciamo. E dai cadaveri? Ma i cadaveri c'erano solo uno in realtà, gli altri erano giù. Quindi sì. Potremmo usarli come galleggianti. Niente, sì, accetto la sua idea e comincio a remare insieme a qualcun altro, se no gira in tondo. Direi loro tre. Io comincio a remare in tondo. Salla. No. Beh, vabbè, tu hai già fatto l'attuazione di combattimento, quindi prendi. Sì. Tu hai già fatto l'attuazione di combattimento, giusto? Prendo il remo, almeno, insomma, so. Gli mancavano due attacchi, quindi può... Cioè, io ho fatto... Primo no, sono per gli attacchi, non per altre azioni. Quindi no, poi, vai, sì, poi, se vuoi, no, nel senso che se tu ti vuoi tuffare, lo puoi fare. No, no, ha ragione lui. Puoi fare, sì, il movimento che prendi il remo, se vuoi, se lasci cadere. Beh, rega. Avevo capito che eravamo tipo a 15 metri dall'arrivo, una roba del genere. Mega 50 idea. 50 metri, tipo no. 50 metri. Faccio la cosa... Del vento. Sparo il vento. Ma non abbiamo la vela. Che cazzo c'entra? Fanno una forza, vento, okay. Forza contraria, non forza di genere. Così nella magia, credo. Forza, 50 metri non sono tanti. Sì, sono tanti. A nuoto ci metti un po'. A nuotare vai a metà della velocità. No, quello sì, per in generale non sono tanti 50. Quindi 6 metri a round vuol dire 10 round. Vuol dire un minuto. Raga, mi butto prima in acqua, io faccio Thunder Wave. Remiamo. Dai, fai 30 metri, dai. Invece la, aspetta, invece la velocità della barca. 30 metri, dai. La velocità della barca. Sì, ma è per non beccarsi gli attacchi d'opportunità. Con la che prende, non è che mentre tanto che prende acqua, quello. Remiamo, io sono d'accordo, dico, come? Ma non scusa, so. Buttiamo intanto in acqua il cadavere del bagaglio. La velocità normale della sì, barca. Sì, quello lo facevamo io e te. Dipende da quanto forte. Tu non capisco tutti questi problemi, infatti, remate. Io ciao Salla. E il mio personaggio sarà passivo e seguirà la compagnia, ma seguirà la corrente. Seguirà la corrente. La corrente, esatto. Ma taglierà la legna di merda perché ha fatto il combattimento e quindi è molto stressato. Vabbè, penso che oggi ci vediamo a Lucca. E quindi alle 7, vabbè, ci sentiamo, però ci allora sentiamo. Dicevi alle 7 da te? No, boh, vediamo. Alle 8. Dai, quando ho deciso scrivici che ci organizziamo. Ciao Sala, buonanotte. Ciao. Mi raccomando, sabato a pranzo. Mi raccomando. Beh, non questo. Quello che torna. È questo che cazzo mi faccio. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao Sala. Salutiamo Edoardo Salladini e proseguiamo. Allora, vediamo un attimo. Il sonno. Andatevi a proprio presto. Ci allora, questo? E... No. Dicevo, se secondo me, se secondo la mia, il mio personaggio, in un paio di round la barca, al di là che sta affondando, ci arriverebbe. Se secondo me in 20 secondi al massimo la barca sarebbe arrivata a riva. Secondo me, allora, secondo me ha senso che la barca normalmente vada più o meno a metà della velocità di una persona. Anzi no, idea geniale. Dal buco, sparo l'aria dal buco. Così l'acqua cioè, via. Normalmente uno fa 9 metri in 6 secondi. Una barca a remi non fa 9 metri in 6 secondi, secondo me. Beh, è una volta lanciata, in teoria non va. Con 5 persone a bordo, con 2 che remano, secondo me neanche nei migliori sogni. Lo so, tu che lo sai. Tu che cosa? Hai un internet? No, nei manuali. Nei manuali. Nel manuale non c'è la scialuppa. Quanto fa? Io direi che di base fa la metà, normalmente sono 30 piedi, questa ne fa 15, 4 metri e mezzo, che in barca acqua secondo me ci sta che ne faccia meno. Quindi praticamente tripota. Anche se remiamo rimaniamo lì? No, beh, dipende che però mi fate, che robe mi fate, dipende ovviamente. O c'è modo di tappare subito il buco, ma la vedo praticamente impossibile. Sì, la tappo io comunque, col vento. Vai. Se l'effetto è quello, sì. Vabbè, certo. Sceo, tu hai un movimento da fare. Cosa fai? Puoi buttarti in acqua, puoi non fare un cazzo, puoi lasciare l'arma e prendere un remo. Posso? Puoi piangere. No. Puoi guardare se trovi gli squali. Posso preparare nel senso, se qualcun altro si butta mi butto, se qualcuno prende il remo prende il remo. Posso dire una cosa del genere? Sì, va bene. Aspetti l'iniziativa degli altri. Aspetti gli altri. No, nel senso, seguo gli altri. Se vedo che un altro prende il remo lo aiuto. Se vedo che gli altri si buttano non mi metto a remare da solo. È logico. E va bene. Philip si tende l'arco in attesa degli squali. Fine del turno. Avete un... se no banalmente dico, avete un'idea per tappare il buco in fretta? Aspetta il turno, adesso deciderà lui cosa fare nel suo turno. Andiamo avanti, vai. Va bene. Questo è quello che dico nel mio. Va bene, Slaz e Giulio cosa fanno? Io vorrei fare, visto che non posso fare altro al momento, vorrei fare il mio tiro per vedere se c'è l'arco in acqua. Fammi un tiro perception. Beh, galleggia. Sì, voglio vedere dove è finito. No, vabbè, lo vedi l'arco. Lo vedo. Sì, l'arco è a più o meno una decina di metri da... 10 metri? Sì. Verso allora, la riva. Vabbè. Verso la riva? Sì, verso la riva. Allora, prendo un remo. E aspetto che se dovessimo passarsi di fianco. Cioè, tu prendi un remo agli altri e ti metti sì. Così. Ok. Okay. Giulio, io... non parte la mia azione che se qualcuno prende un remo lo aiuto. No, non è Anche te ti metti così. Non è quel caso. Io la domanda. Quindi lasci l'altra arma, insomma. Ti riponi la arma. Sì. Io potrei. Io non posso. Fagli. Creare una folata di vento. Mm-hmm. Lunga, se vai, se lunga 60 anzi no piedi, scusa, Philip lancia una freccia a uno degli altri e uccide un Sawajin più avanti. Ah beh, ovviamente non sto sul bordo, non... Che ti metti sul bordo così e che prendo detto. Che prendo il remo e aspetto che si passano di fianco, lo pesco, ma non mi metto sul bordo, te lo specifico, cioè, perché so che andrai il remo e aspetto. Quindi sei così lì così però. Sì. Ti metti sul bordo però bravissimo, sì. Quindi comunque verrai colpito. No, questo è prendilo come top. Ma... Sta Giulio. Allora, io posso fare sta cosa. Che no, faccio? No, troppo classe armature troppo alte. Cioè, ho capito, ma non per questo devo morire io. Faccio il vento. Faccio una linea di vento. Sì. Ah, in teoria sarebbe fare contro delle creature. Tutte le creature. Beh, tu pensi che sotto ci siano degli squali. Quindi però, squali. Alla fine faccio questa folata che dura fino a un minuto. Sì. Che ha una certa forza comunque. Sì, quindi spacchi la barca mezza. Però no. Una domanda. Esatto. Cioè, non è come pensi di... Cioè, nel senso, normalmente ci una barca... due modi. O tipo mi piazzo verso la fine della barca, oppure alla poppa e lo sparo in là. E quindi a controforza, ma forse questo non funziona. Oppure tu vuoi sospingere la barca. Oppure vado da dove c'è il buco e così evito che l'acqua entri almeno per un po'. Ok, quello ok. E se vuoi sospingere la barca verso la riva, normalmente come funziona una barca in questi casi per essere sospinta deve avere una vela. Una vela, la so io. No, infatti. Io non quello che dice lui è una vela. Quello che dice, nel senso, se tu te la spari da dietro, ci sta che effettivamente quello che succede che si spacchi, cioè la parte più debole viene spinta, secondo me, e spacca sull'altra o comunque la affonda. No, lui diceva di soffiarla indietro. No. Che così spinge una forza in là, in teoria per effetto contrario lui viene spinto in là. Però effettivamente è questo, probabilmente non c'è una forza indietro. Cioè lui viene spinto indietro. Quindi addio stronzi. Quindi l'idea se la fai contro l'acqua è mettersi contro l'acqua nel buco e quindi se no vuoi perdere del tempo, fare una vela e sparartela un po' più su e ti fai la vela. Sì, però sei già giù. Sei già sott'acqua ora che l'hai fatto. Un paio di turni li avete. Ma fa una vela in un turno. Se mi dice come la fa. Se il marinaio mi fa una vela, dopo lo punto il vento sulla vela. Vabbè, ma nel senso, puoi usare anche un po' l'immaginazione. Avremmo dei mantelli. Banalmente. Ok, possiamo anche scogliare il cosmo. Ora che scogliamo, due il cosmo. Si mettono ai lati della barca con una qualunque cosa che possa sembrare un telo. Però dovete tenere questo telo. Vabbè, fai una prova di forza. Di 15. Sì. Dai, che figo, dai, mi piace stare. Non so che cosa possiamo avere. Io non partecipo. Telo, anche solo. Questa è un'altra parte. Così ti arriva la botta, boom. Non so, io ho giaciglio. L'unica cosa. No, come vuoi, puoi usare due modi. Però abbiamo... sì, secondo me, se ti spari la forza da dietro, devi averci. Abbiamo tutti, abbiamo tutti abiti pesanti. Sì. Quindi io non li do cose grandi a sì, rega, volendo vi potete prendere dei mantelli e allora fare facciamo così cosa, va bene, facciamo una vela, facciami a te va però bene. Perché senza offesa per la forza io ho già detto che non partecipo, sono lì in attesa del mio arco oddio vabbè non essendoci figli facciamo io lui questo abbiamo addirittura una catta catta e scelta. Vabbè, io nel frattempo diciamo che sparo la raffica di vento su intanto nell'acqua per sparare l'acqua poi dopo al massimo la devi che certo entri troppo tu puoi soffiare aiuto beh tu per assurdo puoi remare anche no dai una mano no tu stai pronto per prendere il tuo arco sì. Va bene ci quindi proviamo quindi mettete sui lati voi due tanto io per un minuto la posso seduti, mantenere sta roba seduti sul lato così abbiamo un po' più di stabilità cioè seduto e tengo stretto così ok sì, abbiamo sul anche qualche lato anche i bei giaccigli volendo quindi una coperta ci sarà tu intanto mi fai tanto abbiamo tutti gli abiti da viaggiatore c'è cioè comunque della nave grande non vuoi farla cioè entra meno velocemente di fatto c'è cioè una forza sì sì quadrata sì però devi non hai le braccia così lunghe da prendere una coperta sei due da una parte due dall'altra se non le leghi sì ma abbiamo un turno sì vogliamo volare non è due turni intanto sì ho capito però se la leghi i remi e tieni solo i due remi E in mezzo c'è la vela? Ma cosa la leghi? Non lo so. Un remo è mio, non me lo do. Modo. Vabbè, intanto prendete, teniamo. No, dovresti fare ad essere bravo nei nodi, e forse tu lo sai, però. No, da qua non risulta. Cazzo, sei un marinaio! Davo gli ordini. Davo gli ordini. Vabbè, ok, la teniamo noi in mano. Teniamo la sarà una rovina. E ci facciamo spingere. Comunque, che tu quanto hai in forza? Più 4, bene, perché ho più 0. Noi partiamo da questa, cioè, io devo fare 15 col dado. Ok. Va bene, sui due suoi lati si scatenano la furia degli squaletti. Vabbè, questa è una merda, però. Scemo. Già. Sempre 17. Domanda: se tu aiuti me, ce lo teniamo insieme. Meno uno. E io 0. No, no, io non vengo lì a tenere la tenda, non voglio cadere. Scusa, ma lui non posso fare la prova di forza. Scusa, lui dov'è? Di fianco a lui sono. È la prima volta che mi colpisci. 11 danni e poi l'altro ti ha comunque colpito. Puoi segnarle tu sempre. Il massimo 42. E 10 danni, 11 e 10. Quindi 21. Cosa? Mi dimezza esattamente la vita. Cosa? 21 su 42. Cazzo, due squaletti di Carta merda. Invece c'è la classe armatura molto alta, 19. 20. Ma perché non colpisci lui? Però il secondo lo colpisce. Perché no? Io avrei messo il board. Io ho specificato. Io avrei colpito 4 l'altro. Danni a cazzo. Io avrei colpito l'altro. Già tolti 3. Ah, è vero, no, c'è anche l'asse da qualche parte. Dove? Chi lo sa? E io ero di fianco a Giulio. Se mette di fianco tipo sotto, no, sto giro l'asse non lo prende. Beh, sotto no, perché se non viene spinto. Andiamo a fare questa. Esatto, l'asse di quello. Lo dico, sicuramente non ci riusciamo, però ci proviamo. Cioè, è impossibile. Scusa, però se tu vuoi prendere il tuo arco, devi metterti sul bordo per provare a prenderlo, se lo vuoi prendere. Aspetto che ci passano di fianco, mi prendono un attacco solo. Va bene, che ora vi siete messi col mantello, cosa fate quest'altro turno? Scusa, ma mettiti Giulio, stiamo lì, lui se sono delle mi dicono io. Aspetta, se sono mettetevi d'accordo. Se sono ci mettiamo altro attacco una sorta di punk, qualcosa dove si siede. No, sciolupo si deve stare in piedi. Sì, le panche di traverso. Infila i piedi sotto le panche, te lo allacci al collo, così non devi fare la prova di forza. Sì, però mi... vabbè. Posso legarla a una gamba, magari. Mi ferma la circolazione, ma non so. No, rega, ditemi se avete qualcosa, potete usare la fantasia. È un gioco. Sì, ti incastri, così non devi fare la prova di forza. Mi ci sedevo sopra. Così c'è un vantaggio, magari. Mi ci sedevo sopra. Incastrati. Perché lui la passa, no, tu pensavo, no, zero. La parte sotto mi ci siedo sopra, così non può sfuggire via. Vabbè. E l'altra la tengo io. Vabbè. Un lato va tenuto, per forza. Ah, con una mano lo vuoi tenere? Con le mani. E come facevi? Te la leghi. Te la leghi qua e qua e tu te aggrappi alla barca. Va bene, sì. Però abbiamo è diverso. Era quello che mi chiede. Abbiamo il tempo di fare dei nodi con una coperta che non so. Voi in questo momento, Giulio, state facendo in modo che l'acqua non entri. Ti spiego, tu hai una coperta. O entra in più piano. Quindi, cioè, la mia domanda era molto pratica: come te la leghi? Te la leghi tessuto. Ma così se fallisce la prova, lui vola via. Sì. Però potrebbe arrivare a dire no, puoi farti oppure potresti remare mentre io tengo l'acqua dentro. Cioè, prendi l'angolo. Scusa, e che cosa avete negli zaini? Dei giaciglio, gli abiti, basta. Ho anche la corda, ma non saprei la corda come legarla col tessuto. Oppure faccio un buco e ci faccio passare in mezzo alla corda, ma poi si strappa il tessuto. Io te l'ho detto come fare, incastrati. Poi vedi tu. No, lo posso, la prova lo posso fare, ma cioè, lo devo legare addosso a me. Ma come? Nel senso, te lo leghi a una manica e alla cintura e tu ti aggrappi alla barca. Ma come la leghi? Non ha dei lacci. Avrai una manica? Sì, l'angolo della coperta con la freccia, la leghi. Ah, si può fare. Sì, se non è allora, che. Se ho il tempo di farlo. Era quello il mio problema. Il tempo. Un turno mi fate una prova di artigianato. Con le abilità di mano, ma no, più di abilità di mano. Rapidità di mano, questo no, non è no, quella è per i furti. Se no, ho un'altra idea di sopravvivenza. Ho un'altra idea: si prende la lancia del tizio, la prova di sopravvivenza, la si lega le corde al coso, si arpiona uno squalo e si fa trascinare. Ma non sono grande. Questo sarebbe una da te. Sì, sarebbe figo. E lanci lo squalo su quella cosa di... No, si prende la lancia. Sì. E poi lanci la cosa di squalo. E poi si... Poi lanci la roba allo squalo. No, sì. Lo squalo trascina. Se no, lo squalo perché deve andare a riva. Esatto. Dettagli. ci abbiamo provato. Vabbè, se no, se no, secondo me l'alternativa è che poi tipo voi legate. Vabbè, tu intanto ti fai trascinare. Secondo me voi fatela, fatela. Una canna da pesca, no, con me. Colpirete lo squalo. Probabilmente andiamo al largo. Secondo me dovresti arpionare lo squalo. Beh, magari ti porta verso le altre barche. Secondo me voi dovreste arpionare lo squalo. Una canna da pesca. E poi lanciate l'asi in acqua lontano. E lo squalo va per l'asi e vi fa trascinare. A parte che sono squaletti, come li hai descritti questi. Beh, ci sono degli squali. Ha fatto 21 HP. Rega, avete un turno, potete dirmi in questo turno, dai, se volete legare, se vi volete mettere lì, come vi volete, se volete fissarvi, se tu ti vuoi legare con la corda. Cioè, avremmo comunque già potuto fare due turni di legata. Se ho il tempo di farlo, sì. Se vuoi legarti qualcosa, ditemi voi, avete un turno, mi potete dire cosa volete fare. Io e ci leghiamo. Se ho il tempo mi leggo a noi stessi. A voi due, a voi due. Senso? Così almeno posso tenere se voli via. Facciamo legarci alla barca. Ditemi se si spacca mezzo quando... Ora, ok, fa una folata di vento, non fa Catrina, cioè, beh, in realtà, beh, se volete posso fare anche Catrina. Lo può gestire, immagino, quindi fa un vento per noi ci assicuriamo alla barca. Sì, e al tempo stesso ci alla barca, quindi sì, con delle corde e al tempo stesso ci leghiamo la coperta o quello che è. Allora, in un round potete fare una delle due cose. Potete fare due round e fate entrambe le cose. Ok. Quindi fate due round e fate queste due cose qua. Nel secondo round, mentre noi ci ancoriamo alla barca, il primo round ci leghiamo alla coperta, così il piano funziona in ogni caso. Secondo round, mentre noi ci leghiamo alla barca, lui intanto devi al vento, giusto? E facciamo questo. Devi al vento, posso fare come bonus action all'inizio di qualsiasi mio turno. Quindi primo round vi legate intanto o al coso al coso, va bene. Fatemi un tiro di sopravvivenza, aspetta. Poi Katta ti può aiutare, tiri con vantaggio, direi. Ma in che senso mi aiuta? Cioè, tu aiuti lui, tu hai sopravvivenza più 6. Sì. Katta più 1. Katta ti aiuta e tiri con vantaggio. E poi dopo io aiuto lui. In quel senso. Vai, tira con vantaggio. Vale per entrambe. Per tutto. Ah, ok. Da 19 o 20 scegli. Vantaggio, quindi 26. E va bene, leghi molto bene. Tornano però. Vale per entrambi, domanda. Tornano gli squali. Vale per entrambe le cose, sia la coperta che la voglio coperta. Sapere, l'as che cazzo fa? Io sono nella stessa posizione. Quindi non proverai a prendere l'arco. Per ora no. Quando passiamo in... io non mi sporco. Vuoi farlo al volo? Provare a farlo al volo. Se faccio uscire uno del tornado di Giulio che... che ti colpisce 3 volte. Cazzo, ma stasera è... Ma tu Giulio continui a fare sta roba? Sì, per un minuto. Va bene, dov'è? Primo dovrebbe essere da verso. Secondo colpisce Sceo. Ancora? Eh sì, 4 danni. Vado a 17. Su Katta invece sono meno mordaci, meno mordaci. Va bene. E questo era un round eccetera. Adesso vabbè, fate di nuovo, quindi fate vi legate, fate di nuovo, continuate a legarvi, giusto? Sì. Ok. Va bene. Dico che qualcuno potrebbe fare qualcosa per questi squali invece di non so cosa? Invece di essere qui a recuperare. Si sta immedesimando nel personaggio. Ok, siete volendo pronti a fare la roba di Giulio. Noi siamo in posizione, aspettiamo che lui soffi. Mi dice la cosa vuoi fare? Esatto, visto che sono il primo, mi sporgo dietro al telo, quindi no, di fianco a Giulio sono dietro il telo, quindi sono soffiato rispetto alla direzione del vento, soffiato contro la coperta. Vabbè. Beh, sarebbe comunque un vettore di forza in più. Giulio parte con questa roba, che qual è la difficoltà, quindi CD 15, tirate con vantaggio. Solo la forza aggiungiamo. È atletica. Se tu hai atletica. A me atletica un tiro salvezza sulla forza. Atletica ce l'ho. Più 3 di DS sulla forza, dici. No, incantesimo in sé sì, poi visto forza. Che stiamo facendo una roba così, dici le Vets che è il master. Vai, sulla forza. Forza base pura. Tu sì, dai. Tempo. Porca troia. Quanto? 7. 7. Che no, vabbè, sì, 7. Vabbè, in teoria sei spinto 15 piedi là. Però è legato, quindi la barca fa 15 piedi, esatto. Quindi... In realtà, essendo legato alla barca, non lo so. Allora, sì, la barca viene spinta 15 metri in avanti. Magari non 15 metri, l'arco era 10. 15 piedi, 15 giusto? Piedi. 15 piedi. 15 piedi, l'arco era 10. Quindi, mentre passiamo... Devi fare un tiro. Però 10 piedi? L'arco era 10 metri. Mi hai detto che era a 10 metri. Quindi ancora non sono arrivate. 15 ancora. Per... E... È la metà. Ok. Katta mi fa un tiro che può scegliere se essere su destrezza o forza. Mm-hmm. Per tenere la coperta. Mm-hmm. Ma anche lui ce l'ha legata. È legata. Te sfugge però. Quindi ho vantaggio se è legata la coperta. È legata. La coperta è legata. Mm-hmm. Però tu fallisci la prova e ti sfugge. Ma è legata? Sì, però stai comunque tenendo. No, è legata. Ce la siamo legata. Oppure finisce a terra a tenerla e... su, impossibile. Dovete comunque tenerla. È legata ai nostri vestiti, noi stiamo così. Ti sfugge. Allora, da lassù. In che senso? Ti sfugge dalla mano. Nel senso ti rimane che attaccata, tu perdi l'equilibrio. Ma rimane... Cadi, magari, al posto di sfuggirti. Sì, ah, ok, va bene. Sì. Devo tenere sulla mano. Se mi sfugge, non nel senso che vola via, nel senso che non è più in posizione, diciamo così. Ti sfugge dalla mano e quindi sì, la decatta deve riuscire a tenerti. Ok, e ho vantaggio perché è legata o tiro secco? Sì, dai. Forza 11. Va bene, dai, riesci a tenerla. E la dobbiamo rifare. Cioè dobbiamo rimetterci in posizione. Ti dovete rimettere in posizione. Rifacciamo. Le comiche. Intanto se mi vedo io ripunto con questa buco. Non ha fatto neanche ma un po' di spostamento. Ma quanto lo puoi tenere attivo? In teoria l'inerzia ti fa un po' è andato. Sì, avanti, sì, spostati di 15. Ok, altri 15. No, di questi 15. Adesso rifacciamo, ritiriamo per legarci. Fa un po' ridere, questo è il secondo turno in cui cominciamo ad affondare in teoria. Ah no, se lui tiene cioè la corda all'inizio di allora lui riesce a tenerla, da te la corda si è spezzata quella che tenevi. La corda. Quindi tu ti sei comunque sei legato alla nave, però diciamo la tua parte è sfuggita. E gli do la mia di corda. Io ne ho una. Beh, io gli do per rilegarvi oppure provate a tenerla. Cioè, io avevo 15 metri di corda. Se provassi a tenere da solo la... No, puoi usare dell'altra, però quella parte lì si è rotta. Ok, mi rilego. Come prima. No, ti chiedevo se provassi invece a tenere da solo la vela. Ma come fai? Siamo... Ma effettivamente tipo al triangolo e io poi vado lì e lui la tiene la barca e con questo triangolo in avanti che va. Fai l'albero. Sì, ma dove ti metti? Davanti al vento? No, lui si mette in fondo. Sì, paradossale. Guarda, sì. Questa è la barca. Ah, ho capito. Tutta la barca. No, tipo? Questa è la barca. Mettiamo. Lui si mette qua, ci sono le corde qua e qua c'è il coso. Io sto tipo qua. Sì, ma cosa? Sì, ho queste capito. Parti qua come le fissi? No, le tiene lui con le corde. Sì, ma non ci sono dei paletti che la tengono alta. No, esatto. Quello come io la soffro. Fa un triangolo. Sì. Ha più senso che lui tenga due punte e una terza punta è attaccata alla prua. Oppure, e tu sei sotto oppure, a soffiare. Oppure sì. Che così non ci devono essere sostegni. Quindi fai da sotto a su? Non è da sotto a su. Decolliamo. Cioè, praticamente... Hai capito? No. È un vettore così, cioè a 10 gradi sull'orizzonte. No? Cioè lui come si mette quindi? Cioè così. Praticamente lui è dietro. Lui ti è... Così. È dietro Giulio. Cioè qui c'è legata alla punta della nave. Cioè davanti a Giulio. No, guarda me. Questa è la prua. Lega un estremo. Gli altri due estremi del triangolo li tiene lui e Giulio è sotto e soffia. Scusami. Da dietro la barca. Ma con delle corde. Ma sta spuntando su di lui. Cioè non fa. No. Cioè lui sta così. Cioè io non capisco. Normalmente... Il triangolo finisce. Guarda Giulio questa qua che ha disegnato lui. Questa è la barca. Questa è la prua. Io sono qua. Cazzo è qua. Io lui dicevo tiene. Il contrario. Scusa però. Per andare di là dovresti fare il vento in qua. Esatto. Io devo fare il vento in là. Sì ma cazzo deve essere qua. Cosa fa qua? No, sta qua indietro con delle corde, tiene la cosa. Una è fissata. Ma quello qua. Secondo me non devi è fare qualcosa però che tenga su. È quello che due regni. Non c'è una cosa che le due regni. Su. Boh, sì. Tu dovete io tengo provare, i due regni. Dovete provare a io tengo i due regni. Vabbè, alla fine è uguale allora, ci vediamo come eravamo se dobbiamo farli in due. No, era la mia idea era che dovevo farlo da solo, così non avevo i due regni, cioè non è che va tenuta comunque altissima ma comunque, perché poi si gonfia comunque tenuta con la forza. Ho capito, ma sì, infatti. O meno che ho trovato un modo per un buco qua con delle corde e lui le tende da dietro. Questo qua è fissata. Però ci vuole qualcosa che lo tenga su. Esatto. Morremo. Cioè se lui tiene se tiene la punta oppure una persona e tu soffi ci vogliono comunque due sostegni. Io sono basso. Se invece fai come dicevo uno io, con un remo che se prima invece, che fai un buco qua sì. E qua ci metti un remo e lo leghi. Sì, ma tutto sto artigianato, abbiamo fatto 15 minuti. No, poi basta che ci sia uno che tireremo così, la cosa così, e tu tieni la corda. Basta che uno tenga, finché non punto il vento, sì, corre. Poi così fate le prove, forma. Tu se ti scappa la corda e lui al massimo gli scappa il remo. Era quello che volevo dire. Vabbè, ma è divertente invece che sia così. Ma il remo lo può, il remo lo può poi anche togliere, cioè, tanto. O poi al massimo usate l'altro remo. No, l'altro e poi, occupato. E poi l'arco di qualcuno. E poi, no, cioè, e poi dice, qualcuno. Scusa, se tu attacchi un estremo della coperta, che poi non so quanto sia lunga, questa coperta, tra parentesi, no, a prua. Ma ascolta, tieni, stai in piedi dietro e tieni altri due estremi. Guarda, fate la prova uguale. Se tu attacchi gli estremi, cioè, tieni altri due. Devo solo cambiare la direzione. Abbiamo perso 20 minuti per sta prova. Andiamo avanti. Volevo migliorare il nostro processo. Dicevo, se tu attacchi continuare in questo modo inefficiente, senza regni, senza cosa. Tu attacchi un'estremità, prova, tieni le altre due estremità. Io in linea di massima avrei fatto che voi remavate mentre io evitavo che l'acqua stava entrando. Quella era la cosa migliore. Però a quanto pare una vela. Come volete. Te lo do il remo sulla remare. Ma una, le altre barche facciamo questa cosa. Se c'è qualcuno vabbè. Quindi lo fai da solo o... Dipende se posso farlo da solo. Può farlo da solo. Non so come potrebbe farlo da solo. Come ti stavamo cercando di spiegare. Ma anche come la tieni su? Cioè come la tenete su? Pratichi, cioè, se tu mi lei mi fai sì, però come fai il remo a fissarlo? Lo leghi con una corda che passa per di qua, leghi l'estremità del remo a cosa? Qua alla corda che passa attraverso. D'accordo, domanda. Lenzuolo. Sì. Però normalmente se tu l'appoggi lì e ci fa il vento, non fa un cazzo, cioè si vuole che sia in qualche modo fissata sopra, se no come fa a fare? Sopra è fissata dal remo. Ma al remo, sì, ma chi lo tiene in a alto? Cosa? Al vento? Il remo, le due corde che io tengo in mano sono fissate. Parte così, lui parte, esatto, col vento, come fa a partire? Si gonfia. Ecco, come fa a partire così? Alto. Qualcuno lo deve tenere. Tengo io con le corde. Hai mai usato un aquilone? Sì, catta, nel senso non funziona esattamente così. Cioè, sì, nel senso. Funziona esattamente così. Allora, cioè, se tu vuoi star seduto e tenere la corda, la cosa di là, come fa a stare di base così? Cioè, tu hai in mano. Non c'è parte vento. Da così, viene gonfiata dal vento. Sì, dato che è un vento della Madonna. Cioè, lui tiene in mano il remo, ok? E intanto si lui fissa. Lui spara contro la coperta. Nel momento in cui è là, c'è il remo che va gonfiato. Ah, tiene la ok, sì. Vabbè, però le corde. Però dovessi farmi passare così alle corde. Qualcuno di voi deve tenere il remo. Si fissa le corde qua. Tiene il remo e poi si fissa la corda okay. qua. Ok. Sì, va bene, ci può stare. Sì. Però devi essere davanti a Giulio e devi passare la prova di forza. Beh, non necessariamente. Posso stare così, Giulio mi sta davanti e sparo. Sì, bravo, no, vabbè, la prova di forza dovrò fare uguale per sì, una ma in realtà sì. Cioè, è un po' complicato. Se me lo puoi caricare, ce l'hai il cavo? Di questo? No. Che cos'è? Un cavo lì. Un cavo generico. USB. No, Thunderbolt. No, questo è questo. Non so se ti va bene. Sì. Vabbè, caricate. E sì, potete far così, Katta, vabbè, mi deve passare la prova. Non avrai vantaggio, però. Io non sto sul bordo. Quindi avete un altro turno che fate così, eccetera, va bene. Io non sto sul bordo. No, sto non sul bordo, però carino che qualcuno allora preparasse la sua reazione per la mia reazione per prendere l'arco, attaccare uno squalo. Io no. Vabbè, se però io mi mettevo sì, no, non posso aiutarti in effetti, tanto vale che mi vai, capo, fammi sta prova invece di sì, io guardo, tengo d'occhio gli squali. Un yar 13. Va bene, quindi Katta viene sbalzato, giusto? Sì, nei 15. Va bene. Nei 15 piedi. Allora, e non la barca va alla nave, alla barca stavolta. La nave, la nave viene, è diventata una nave. La barca un po' prosegue effettivamente, però Katta non riesce e finisce fuori bordo, diciamo, la gente tipo Katta che prende il volo. Ti prego, dimmi che lo urlo. Sto volando. E finisce in acqua. Ora c'è Katta in acqua, qualcosa un po' quanto più là. La barca è andata un po' quindi avanti, boh, dagli altri. Cioè il Katta sarà ora un 15 piedi. Poi comunque c'è la barca è andata un po' avanti. C'è un arco dove sono io. Allora, hai l'arco a 5 piedi. Raga, ho un'idea, gli lanciamo sì, una corda di nuota per mezzo c'è un arco, effettivamente. Però tu sei in acqua adesso. Allora, io ti lancio un'estremità di una corda, tu te la leghi addosso e nuoti verso riva, grazie. Ma aspetta, fermi, ora c'è Catta. Se lui prende l'arco, io gli allungo il remo e lo tiriamo a bordo. È a 15 piedi da voi. No, perché hai detto che la barca si è spostata. Si è spostata un po' e poi Catta è andata a 15 piedi. Ah, dopo lo spostamento. Esatto. Ah, ok. Quindi ora Catta è in acqua con una coperta legata. Vabbè, gli lancio la corda però. Con la corda ci posso arrivare. Ma ste corde dove cazzo le sei? Io ho 15 bene, metri vai, di corda. Ste corde. 15 piedi o 15 metri? Oddio, no, metri. No, le corde sono lancia. No, metri. Arriva a metà. No, metri. Le corde sono scritte in metri. Va bene. Hai allora conto che ne avrò usato... Ma un paio di metri l'avrò usato. Quindi tu lanci la corda per recuperare Catta. Sì. Cioè gli lancio, non lo so, gli leggo un pezzo di legno. Nel frattempo Giulio cosa fa? Perché si rideve al rimette il vento nell'acqua. Ma l'asco cosa fa? Distanti dalla riva. Abbiamo fatto 30 avete fatto piedi. Un 20 piedi? No, non so, avete fatto tutti qui. Ho fatto un 20 piedi, prima erano 30 metri, quindi più o meno... Metà. Siete, beh, non manca tanto in realtà, sì. Cioè, Catta in realtà è, cioè, praticamente arriva. Ah, sono arrivato. Cioè, allora... Catta è aspetta, fammi pensare. Sì, ormai arriva. Erano 50 metri all'inizio, Ma tutta sta roba mi potevi dire che l'arco era arriva, allora? No, aspetta, fammi pensare. No, è vero, no, l'avete fatto pochissimo. 30. Sono 30, facciamo 30. 90 piedi, facciamo che erano. Un terzo ne avete fatti strada. 20, quindi 30, mancano ancora 40 metri. 70. 70 piedi che sono 18 metri, sono, 20, sì, 20 metri. Dai. Ah, no, okay. E Catta è un po' più avanti, Catta è un 15 metri dalla riva, allora. Però ancora è in acqua. Ma noi abbiamo detto che qui tocchiamo. Sì. E adesso Catta tocca. Adesso Catta tocca, sì. Sì, prima eravate buon punto. Catta tocca però un po' al limite. Ma cazzo, ne sono armatura. Che non dà svantaggi, che non ti dà svantaggi in acqua, questa cosa è clamorosa. Vabbè, cosa fa l'as e cosa fa Giulio? Giulio fa quello, l'as cosa fa? Allora, se lui tira la corda, non ho capito cosa vogliono fare, se allora arriva o no. Lui in acqua, Scio, voglio sapere fisico. Cosa fanno l'as, Giulio me l'ha detto, l'as e Scio cosa voglio fare. Allora, se lui ha detto che tira la corda e lui non va a riva, do una mano a lui a recuperare lui. Quindi tu gli lanci se lui la corda, invece va, se lui va arriva, no? Lancia la corda, fammi un tiro di destrezza. Lui tira, ci arriva. Destrezza? 15. Ok, è un buon lancio. E sì, Catta ci avvicina la corda. Massimo si sposta un po'. E l'as cosa fa, quindi? Non ho capito. Do una mano a lui a tirare indietro lui, se vuol venire indietro. Ma lui l'ha lanciato, quindi il suo turno è questo. Ti metti lì pronto a prendere allora, la corda. Allora sì, aspetto di fianco a lui, sì. Sta a te, Catta, cosa vuoi fare? Prendo la corda e li trascino a riva. Va bene, quindi prendi la corda e cominci a trascinarli. Uno squaletto verace, però, arriva fino lì. Sì, e mi lamento che qualcuno non sta ancora scacciando gli squali. Non ho l'arco. Uno, volevo dire più di uno. La classe armatura è 19, tantissima. Non ho l'arco. Ha senso. Però uno finalmente. Posso dire una cosa? Prima di abbandonare Sala avrebbe detto che usava l'arco contro i pesci e le altre cose per. No, Sala ora si è messo coperta che questo vento non gli rende possibile fare nulla. Fai un cazzo di fulmine. 3 danni a Catta. Quindi 0. Cioè sono volendo i dardi, ma tirare un dardo a un... È pieno di squali qua. Squalo che nuota. Boom, uno finalmente la colpisce. Cioè, tirato finché non ti ha colpito. No, erano 5. 6 danni. 3 danni. Gli squali se la prendono con Catta. Quanto si nuota? A metà del movimento. Sì, poi sta tirando una barca. Qui non sta nuotando, però sta andando... Una prova di forza. Qua non sta nuotando, ma sta facendo, diciamo, come sta se camminando. Fosse... Sì, sta come se fosse... Sì, sempre metà. Metà del movimento. Metà. Fammi sta prova di forza. Con una coperta attaccata. Beh, è vero che ti cincespica. Fammela. Me la posso liberare. Fammela con svantaggio allora. Posso usare la mia interazione gratuita con un oggetto per liberarmi della coperta. Dalla corda che ti eri legata dopo 2 ore? Devi prendere un coltello e tagliarla. Se vuoi la tua azione. Liberarsi da una corda non ha lo stesso tempo che ci metti a legarti. E no, però in questo caso in acqua, eccetera, secondo me è un'azione per tagliartela, devi fare. Se vuoi fare, se vuoi puoi usare la tua azione per tagliarti la corda via da quella che la perché roba. Vuoi toglierti la corda perché lo stai impedendo, cioè ovviamente Non capisco. Sì, no, la cosa che gli ha lanciato, quella del vela, sì. Della vela. Oddio! Io avevo capito questo. Allora, io ho due attacchi. Posso usare un... L'hai preso il mio arco? Sì. No, no, hai due azioni, però. Cazzo. No, però io ad esempio posso, no, posso spingere con... Cioè, ho due attacchi, posso spingere con uno e attaccare con l'altro. Sì. Ah, tu consideri l'attaccare il fare... molto limite. Sì. No, se vuoi puoi trascinare e... con svantaggio. Con svantaggio e... non lo so, cioè secondo me ci sta che tu usi un'azione per liberarti da questa roba, se vuoi. Ma tu perché? Se no con svantaggio perché puoi fare un attacco su uno squalo, sì. A parte che ha fatto un sacco di cose questa campagna, ha fatto discorsi funebri. Secondo me, allora, io farei così. Secondo me ha senso che tu puoi fare un attacco e stirare la gente muore, cioè, anche... a caso. Se qualcuno nascesse farei liberarti da quella... Ma tu l'avevi usato l'inspiration, quella del capitano? No, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho un'inspiration, cosa mi serve? Annullare lo per non tirare con svantaggio? No, pure esatto, barca, puoi usarmi così. Allora, possiamo... basta che mi descrivi cosa allora, fai. Quanti, più quanti PF ho? Quanti PF ho? 39. Okay. Se avessimo due remi, qualcuno non fosse volato via con uno di quelli, basterebbe remare fino a riva. Ma abbiamo... all'inizio, non so perché abbiamo fatto tutto questo. Anche perché lui aveva detto che avrebbe fatto sta cosa. No, è abbastanza divertente, su biancata come sta gioco. Per il divertimento abbiamo fatto sta cosa. Per il divertimento del master, aggiungerei. No, perché è anche abbastanza divertente anche per... Beh, ci sta, cioè, chi non cioè, vola via. C'è cioè, il mio chierico che va... guarda vola! Ok. No, non tirare sarebbe una missione di debolezza, quindi grido ai miei compagni di scacciare gli squali e tiro la corda. Vabbè, tira con svantaggio. Non abbiamo archi. Ho detto di scacciarli, non di tirare con gli archi. Andate via. Ingegnatevi un po'. Cattivi. 16. Va bene, comincia a tirare la barca. Vi muovete di... tu ti muovi di 30, quindi 15. 15, sì, ci sta. E non lo so, io ho dei dardi, ma sinceramente non lo prenderò mai. Lontano, cioè. Io lancio in acqua. Dai, siamo a 15 metri da riva. Una manica sporca. Domanda, il cadavere aveva... No. Il cadavere ce l'abbiamo ancora sulla barca. In acqua, magari sì. Qualche squalo. Buttate via questo cazzo di cadavere. Lanci uno, la tua tunica sporca sì. Sangue in acqua. Insieme all'arco. No, ancora non sono arrivato in range. Va bene. E tirami un percentuale. Ah, oh, mi è venuto in mente solo quello senza arco. Il cadavere del pene l'avevano già buttato giù. Era no. Giù, sì, si era sprofondato. Percentuale fai tu, sopra. Fai tu, ti do il numero totale. 90. 90. Ma cosa stai provando a fare? Se qualche squalo viene ingannato dal sangue in acqua. Allora, uno squalo attacca catta. Se no ci tagliamo. 8 danni. Minchia. Se no ci facciamo un altro danni. Squalo attacca catta. Io ho già ferito. Un altro squalo attacca catta. Siamo tutti feriti. Ah. Giusto. 6 danni. Quanto è di vita? E un altro squalo attacca catta. Poco meno di metà. 8 danni. Cioè, tutti hanno attaccato catta. E poi uno squalo emerge. Ah, si mangia la tunica di Laz. E più che altro hanno colpito, è quella cosa che mi sconvolge. Hai segnato danni? Due volte gli ha fatto danni. 3. Ah, ok. Sempre 8 gli ha fatto. Meno 3. Mi sa uno, 2, 8 e un 6, mi sa. Quindi 5, 5, 3. 28. E va bene. Catta, altra prova di forza o dimmi quello che vuoi fare. Le altre nel frattempo non fanno un cazzo. Non lo so. Io sto cercando di non far affondare la scena. Io ti ho tolto uno squalo. Di così. Non ho archi, non ho niente. Fai anche tu una prova di forza. Per... sì, però. Perché... intanto è arrivato l'arco. Se sono in range, provo a pescarlo. Sì, sei in range per pescarlo. Oh, grazie. Visto che lo dovevo fare. Vado con remo e. Sì. Cosa sì. Faccio? Ah, no, però aspetta. Però l'ultimo turno l'ho bruciato, sì. In teoria. No, ma adesso ce n'è uno. Cioè quello di prima, adesso ce n'è un altro. Scusa, un altro. Che cosa uso? Non so, dimmelo tu. Ah, ok. C'hai un remo che ha un po' di distanza da te. Puoi tuffarti in acqua e prenderlo. No, ma c'è il remo. No, io il remo puoi provare col remo, sì. Il remo in barca. Prova, fammi un destrezza, rapidità di mano, vedi tu. No, destrezza. Sposto il vento sull'arco. Puoi provare una rapidità di mano se vuoi. No, non vado con le mani in acqua. Corremo. Corremo, posso comunque? Sì. Ah. Vabbè, ho più 7. È una cosa di equilibrio. Vabbè, sì, forse. Più 7. Devo no, andare con quello. No, faccio ancora rapidità. 14. 14. Peccato, la CD era 15. Annaggia, che dispiacere. Dove no, eri vicino, però non riesci a prendere in questo momento. Però se ti tuffi puoi ancora recuperare. Vuol dire che rimane lì. È quella classica cosa che l'hai quasi preso, cazzo, l'ho mandato esatto. Più lontano. Voi altri fate, vai Giulio, mi hai fatto per qualcosa? Puoi fare un lazzo per prendere l'arco di Lazio. Ma se io adesso mi butto in acqua, tocco, abbiamo detto. Sì, volendo sì. Posso fare, se ci sono degli scogli vicino alla riva o erano molto più indietro? Erano un po' più indietro, adesso sono un po' più lontani. Ah no, ok. Quindi esattamente i metri dalla riva? Cioè esattamente, scusami, più o meno? Non lo so, siete a... Boh, via. Siamo a 15 metri. Secondo me siete a sì, una a decina. 20 ah fatto, sì, sì, esatto, siete a un 15 metri. 15 e mezzo. E lui invece è tipo a 6 metri da me, una roba del genere. Cioè in un turno lo raggiungo a nuoto. Allora, perché lui era 15 piedi da voi, che sono 4, 5 metri. Quindi voi siete tipo io 20, in un turno, io in un turno e lo... lui è a 15, quindi, tipo, sarà... quindi è tipo 5 metri da voi. Quindi se la mia velocità sì, base è 12, mi adesso sarà 15, lui sarà metà, se metto 12 metri il tuo. Se metà secondo 6... me sì, metà lo, con una prova di nuotare sull'uscita. Allora lo raggiungo gli do una mano. Deve fare un atleta, no, deve fare un normale, non deve fare nulla, ti vai e basta. Non so, sì, cioè non voglio fare niente. Tu non, come sei, non hai nulla, non, so, non hai neanche ingombrato. Esatto, non sei ingombrato. Vai, puoi buttare e raggiungerlo se vuoi. E se con un movimento lo raggiungo, come azione posso tirare la corda insieme a lui. Quindi vai, ti tuffi in acqua e vai per raggiungerlo. Tu stai sulla barca. Giusto? No, ferma tutto. Io non mi butto mai in acqua, rimango sulla barca e aspetto. Non mi tuffo mai in acqua io. Va bene. Il mio PG non aveva dei problemi Catta, con l'acqua. Cosa fai? Mentre i tuoi compagni se ne fregano di te, cosa fai? Nessuno ha scacciato neanche una squadra. Io uno sì. Però adesso ti hanno attaccato in 4 invece di 5 prima. No, vabbè, posso, se ti sto evitando che la barca. Ti hanno colpito però. Se, l'odore con, del sangue. Con l'attuazione bonus hai ancora un'azione da dare. No, non puoi curarlo a distanza. Effettivamente. Guarda, vai, catta. Quasi smollo la catta corda. Catta sta a te. Catta sta a te. Ah no, ce l'ho, aspetta. Non posso prossimo, Giulio. Catta sta a te. Ah no, quanto no. Sì, ok, ho un giavellotto, però me lo tengo il giavellotto. Che ho un giavellotto solo perché faceva figo tipo fulmine. Perché non so tirare. Come non so tirare con l'arco. Inizialmente erano 90. Anche se poi ho fatto 20, 70. Poi tu sei arrivato a 15, più ne hai fatto. Altri 10 che? Non so, siamo ai metri. 10 metri? Noi siamo a 15, noi siamo a 10. Dalla riva. No, è diverso. Lui è a 15 e voi siete a 20, secondo me. Noi eravamo a 20 prima che lui tirasse. Sì? Sì. Ok, allora sei a 10 metri da più o meno dalla riva. Quindi 30 sei, piedi. Sei un po' giusto, dai. Quindi 30 piedi. Quindi 30 piedi, sì. Riesci ad arrivare eventualmente. No, non riesci, non riesci perché con fai metà di movimento. Con due azioni. E vediamo se riesci a tirarti dietro alla barra. Se me la devo tirare dietro. Ah, sì, certo. Se no fai e fai due azioni di movimento e vai. No, che cazzo fa? Oh, stronzo, guarda che se sei là, grazie al merito mio che sei partito fatto volare. Esatto, appunto, se sei già arrivato grazie a lui. Sto smangiucchiando gli squali e nessuno sta facendo niente. Non possiamo fare niente, se tu raccoglievi l'arco. Non volete fare niente. Se tu ci mandavi l'arco. Non posso fare un incantesimo se non a quello precedente. Basta che non abbia concentrazione. Ma poi chi sta tenendo sta cazzo di corda? Scemo in realtà. Sì, cioè l'ho legata alla barca. Era quella qui. La stai tenendo tu, cioè non hai fatto un cazzo, stai tenendo la corda. Tenendo la corda. Sì, non l'ho detto, hai ragione. Non beh, non deve fare una prova di forza per tenerla no, da un tiro. Quello no, tiro con la barca di questi ingrati. Vediamo. È un po' fatica aiutarti da lontano. Posso mollare mentre lui quanto tira? 11. Quindi non vuoi che io ti aiuti perché i miei incantesimi sono tutti ad area. La corda ti sfugge. Vabbè, lì la ripiglia. Può rinunciare a un movimento per provare a ripigliarla oppure andare avanti. Ti stai dicendo scegli o tu o i tuoi amici. Nel senso dell'onore mi impedisce di abbandonarli. Allora ti ripigli la corda. Ma io da giocatore vorrei tanto, sì, aggiungilo. Assolutamente. Però visto che rimani lì. Dovete solo ringraziare. Però visto che rimani lì. No, io ho una. Vabbè, no, non è mio. Ascolta, vabbè, intanto finisci, poi te lo chiedo, vai. No, no, lui è finito. Cioè, ha fatto. È andato, però gli è sfuggita la corda, quindi è tornato indietro a ripigliarlo. Eh no, dico, finisci, lo stavo riattaccando. Sì, ora lo attacco. Pensavo di attaccarlo in realtà. No, ditemi voi però cosa fate. Già turno nuovo. No, non è il mio turno. Sì, è un turno nuovo. Allora, se posso, un po' così. Io vedo uno squalo. Allora, riassumo le pinne, quindi, che sono vicine a Katta. Sì. Quindi, quanto allora da lui ho Sacred Flame? Quanto da lui esattamente? Però hai ancora tu la cosa, attiva. Sì, ma non è concentrazione, ma stanno incantesimo. Ma puoi fare due incantesimi contemporanei? Sì, sì, basta che non sia concentrazione. Quanto siamo esattamente da lui? 5 metri. Adesso, 5 metri? 5 piedi, 5... No, 15 piedi. 15 piedi. 5 metri, sì, più o meno. Allora, se io faccio una prova di... Il tuo arco è ancora lì, in realtà. Vabbè, se faccio una prova di acrobatic, per evitarmi di nuotare, anche perché io vado più sulla corda. No, salto dalla barca verso la riva. Dovrei superare lui col salto. Cazzo salti? Un grillo? Cioè, corro. Cioè, nel senso, allora, poi fermo. Sono 15 piedi, no? Allora, quanto è il record sono? Di salto non più lungo del sì, mondo? Sì, tipo 9 metri? Quanto sono? Ok, tipo il salto, fermo. Lui è un halfling, è più leggero, quindi ok, fermi un attimo. Il salto tipo di record del mondo, tanto il sono lungo? 15 piedi, ah, sono 3 metri? 15 piedi sono 5 metri. Ah, 5 metri. Ok, il salto è 9 metri, il salto record vabbè, del mondo è più o meno sui 9 metri. Salto 10 metri, fai il salto però. Il salto tipo 10 metri, con la rincorsa che non hai qua. Tu che sei un halfling, quindi più piccolo, quanto vuoi volare? 3 metri li faceva. Se erano 3 metri, cosa allora? Se, 5, mi fai okay. un buon se mi fai un buon salto, sì, se lui è 5 metri, faccio metri. Che non ti, sapevo che erano 5, faccio che ti fai un paio di metri di ah, no, allora no. Coso. Però mi sembra forse più vicino sia. Lui. Così puoi fare gli altri. Tu, no, allora tanto quanto tu hai, di normale? Io avevo 25 piedi. Tu hai 25 piedi, quindi normalmente in acqua faresti 12 piedi. Esatto. Ok. Se vuoi puoi fare un salto e finire il movimento e di fatto ti perché ti permette di arrivare abbastanza vicino per poi nuotare e arrivare da lui, se è questo che vuoi. No, allora ripesco come vuoi. E ora però è un pochino più lontano e lui non ha tirato, cioè no, lui non ha tirato tanto, però sei passato lì. Dai, diciamo che arriva, ti devi sporgere. Ti devi sporgere, gli parte il sorrisino. Il mio arco. Puoi fare, se no, puoi fare un lazzo. Puoi provare a fare un lazzo con la corda e provare e a un pesetto. A vedere se riesce a pescare. Sì, ci metti. Va bene. Non so cosa legarci. Aspetta, però. Perché di cosa devi legare? Devi provare a prenderlo col lazzo. Ecco, il lazzo dentro l'acqua. No, però se ci mette un peso che cade dentro l'acqua. Dentro l'arco, tra l'arco e. Cioè, no, se riesci a metterlo lì, riesci a portarlo. Ah. Una roba. Vabbè, allora tiro. Cosa devo fare qua? Sempre destrezza. Sì, bravo, fammi destrezza. Lo fai molto così. 18 più 4. Va bene, riesci a agganciarlo. Poi vediamo se lo recuperi. E io questo quello, è il turno. Io quello, se posso farlo, avrò delle ferite visto che mi hanno smangiucchiato. Tu hai la corda in mano per tenere la barca. Me la leggo alla vita, così non ho le mani impegnate. Se riesci a tagliato in fare. Poi come posso fare un'altra azione veloce? Se è catta che tira, semplicemente se ho un braccio ferito metterlo in e il personaggio di Scio che si spacca a metà. Ah, quello sì, certo, lo puoi fare. Un tubetto di dentifricio. Così attira in teoria gli squali. Ah, e poi posso tipo preparare, cioè nel turno catta successivo. Catta 19, sì. Giusto? No, non posso perché ho finito le azioni. Ah, io faccio sì. Sacred Flame. Fammi il suo Sacred Flame. CD 15, uno sulla destrezza, uno squalo. CD 15 sulla destrezza, uno squalo. Non lo passa. 11 danni. Sono in acqua. Sono fiamme sacre. Sacred Flame, secondo te? Allora, quindi uno non lo credo, due non lo dopo controllo. Non erano tre, ok, però. Uno ti becca, catta. Tre danni, quindi zero. Dai, ti va bene. Devi solo. Oh, ho appena messo le mie ferite dentro l'acqua per attirare gli squali. Non sta funzionando perché non aspetta. Si è ferito. Aspetta, adesso arrivano. Quando lui sarà ormai arriva. Boh, sì, dai, uno su Scio così. Ritardatario. Ci sì, sta, ci sta. Lo becca Scio. Cazzo. Mi morde il braccio. E bene. Lo stacco. Sei danni. e si prende il braccio. Vado a 11. Catta, fammi sto tiro. Devo proprio. Con svantaggio, se no puoi. Non abbiamo fatto niente, sto stato in pratica. Beh, no, in realtà è stato un sacco di roba. Ma è stato divertente. State massacrando, tipo. 7. 7? E non sei sei bloccato qua, ti sei proprio, stai incartando su te stesso e non riesci, cioè sei lì bloccato. Non posso neanche muovere. Puoi neanche muoverti, puoi nuotare. Sì, puoi nuotare. Cioè sei bloccato, quindi non riesci a far forza. Però se ti lasci puoi fare due bracciate. Però volando la corda. Sì, volando la corda. Oh. No, anche... non la mollo perché almeno ho visto un po' più di impegno da parte della ciurma. Ma cosa hai visto? Hai visto niente te? Cosa hai visto? Fiamma, ah sai. Sì, è vero. Almeno qualcosa. Fai altre due lucine così contento. Esatto. Hai visto? Facciamo qualcosa. Però mi faccio lay on hands. Cos'è? Cioè? In posizione delle mani. Sicura. Curati. Di quanto? Di 20 pf. Va bene. E Laz? Vai, altra. No, vabbè, riesci a recuperarla. Riesci a recuperarla. Fai un tiro sul culo. Giulio? Lancio un altro Sacred Flame. Sì, sì, sì, 15. Fallisce. 5 danni. 5 danni. Adesso devo recuperare una mia maglia. Da dentro lo squalo. Sceo? Non so, se mi attacca non rispondo. Cioè, lo squalo lì. Lo massacro di mazzate. Vai, che ti attacca sul braccio. Lo prendo a pugni, 19. Lo prendi a un pugno. Esatto. Sì, credo. Potrebbe essere un nuovo modo di combattere, dare i pugni con uno squalo attaccato. 10 danni. Sì. Ce n'è altri? O sempre, no, c'è uno squalo. È ancora vivo. Certo. Deve morire. Oh, che vai. Ti caccio. 9, 4, 13. Ah, muore uno squalo. Ok, ce n'è altri? Lì no, c'è solo questo. Sanguina questo squalo. Ma. Boh, gli hai tirato due pugni, come cazzo fa a sanguinare? Sanguini tu. No, allora continua a tenere il braccio esposto. Vai, su catta. Uno lo colpisce. 4 danni. Un altro lo colpisce. Ma non vengono da me, cazzo? E canta un po' più in là. C'hanno la preda lì che è gustosa. 5 danni. Non si muove. E altro che lo colpisce. 6 danni. Ma che tiri fa? Tirano con vantaggio perché sono tutti lì. E un altro lo colpisce. E fa 10 danni. Ok, sto giro mi sa che fai rischiare. Stai togliendo tra le. Ma quant'è? Volta, vero? Sì. 10, 7, 30. 5. Ma ancora ne ho un sacco. A voglia. Prima si è curato i 20. Catta! Che due coglioni. Okay. Dai, dai, stavolta ce la fai. Uso la inspiration. Boom! 21. Ti liberi. Non e arrivi. Inspiration. E riesci a arrivare finalmente alla cazzo di riva. Hai usato l'ispirito. Però, sì, ho tirato, sì, però ti becchi, mi sa, un degli attacchi. Ah, perché non hai svantaggio. Perché non disingaggi. Hai annullato lo svantaggio. Secondo me ci sta che ti becchi degli attacchini che non disingaggi. Riesci ad arrivare a riva senza disingaggio. Poi arrivi. No, quello allora no. Me devo beccare. Te devi beccare. Ma. Secondo me anche prima devi beccarteli. Però riesci ad arrivare a riva. Ah. Se sopravvivi. 8 danni. È stato forte. 5 danni. La smetti? 8 danni. E altri 8 danni. E quindi? Quindi è riuscito a sopravvivere? 18. Alla grande, arriva, sei arrivato, arriva tutto. Quindi abbiamo 5. Imbarbagliato tipo con la cosa. Abbiamo guadagnato altri 5 metri, siamo a 10 metri da riva. No, ora lui ce l'ha fatta, ha fatto due movimenti e ha fatto 30 piedi. Quindi siete vicini. Quindi siamo a 5 metri da riva. Sì, siete praticamente lì. Ok, io mi butto. Gli squali non arrivano 5 metri da riva. No, sì. Però ci passate vicino. Sì. Però ci passate vicino. Io salto. Io mi butto in acqua. Dove arrivo, arrivo. Io mi butto in acqua e magari cerco anche di spingere la barca in avanti. Va bene, dai. Passate attraverso gli squali. Vabbè, io vado. Stanno attento a non bagnare. No, è vero, però c'è chi ha il braccio in acqua. sì, vabbè, sono non ti becca. Sto attento a non bagnarmi. Tu sei io. Ah, preso lui. Sto attento a non bagnarmi da qua in su. No, riuscite a arrivare a riva. Hai capito? Però. Ciao, Captain. Ciao, Captain. Ciao. Ciao. Bene, finiamo qua. No, aspetta, finiamo sta roba, arriviamo a riva. Siamo a 5 metri da riva. Io mi sono buttato in no, acqua. No, no, riuscite a arrivare. No, no, no, no, giochiamo. Vabbè, dai, finire. Ciao, Captain, buonanotte. Ciao. Finisci l'istituto. Il motivo per cui non mi sono buttato. No, ma è difficile, se arrivate a riva. No, siamo a 5 metri. Vabbè, cosa fate? Io mi butto in acqua a 5 metri va da riva. Bene, bravo. Io cammino e non... Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Ma stavo sottando il voglio. Abbiamo fatto abbiamo fatto 90 metri di cose in tutto là. Io cammino a piedi, non mi butto mai sotto, cioè non metto mai la testa sott'acqua. Capta ti tira a riva. Laz, rimane cammino. Sopra? No, in acqua, tocchiamo, scendo e cammino fino alla riva. Ah, scendi quindi da là. Sì, però non mi okay. Bagno da bene. Cerco di capta tra, tu rimani sopra fino all'ultimo. Salto. E poi cammino. Fammi un acrobatics. No, scherzo. No, no, adesso lo fa. Adesso lo fa. Se cadi rovinosamente, almeno ci facciamo due risate. Vai, fammi un minchia. 19 più 7. No, fai un, con un grande mi salto. Faccio sti 3 metri. Fai un salto, praticamente atterri sulla testa di Giulio. Riesci a. In acqua. Su Giulio, atterri su Giulio. E fai un altro salto. E fai un altro salto e riesci a arrivare. Non è come Legolas con i nani. Esatto, no, inquietante. E va bene ragazzi, direi che vi abbiamo fatto abbastanza di squali. Sono improvvisamente andati via. No, vabbè, lì eravate molto vicini. Catta era rimasto proprio nell'ultimo punto in cui lo potevano beccare. Mi allontano, torno a 10 metri. Li vedi un po' lontani, li vuoi ammazzare. Esattamente. Ma adesso, scusa, ma non fulmine adesso? Ma il fulmine non becca l'aria. Era più bello se mi attaccavano e facevo Thunder Wave. Ah, vuoi tornare indietro allora? Un po', però aspetta. Vuoi notare verso il centro? Dove mi arriva la... Non potevi scendere prima? No, so, no. Ora sei in teoria sei a riva. Se vuoi puoi nuotare verso gli squali. Sono a 5 metri dalla riva. Ti vuoi buttare indietro? Io mi butto. Li avete passati gli squali. Cioè, tipo Catta vi ha trascinato, siete passati in mezzo agli squali. Uno ha provato a smangiucchiare il braccio. Io mi butto prima. Sì. Ah, e rimani così da arrivare dagli squali dopo. Sì, mi butto che sono a 5 metri a riva, tipo. No, ok. Gli squali ti arrivano addosso. Sì. Ma sono critici e mi ammazzo. Allora, quanto hai di classe armatura? Sai che io e lui non curiamo, vero? 7 danni. Questo no. Un bel crit. Guarda che avevo fatto col vantaggio così. 20-20? Eh sì. Per fortuna che conta come. Però è uno. Potrei tenermelo per l'altro. Allora, solo 12 danni. In quinti che passano 12. L'ultimo non ti becca. 18 sono troppo bene adesso. Ok. Bellezza. Sai che bello sono le cosa vuoi fare? Thunder Wave, ok. In onore del nostro gruppo. Se non li uccidi tutti e ti riattaccano, però rischi. Quindi un cubo di 15 piedi. Mi hanno attaccato tutti, sono tutti lì. Perché no, no, vabbè, però è con un attacco li uccidi tutti. Sono 4 di 8 massimizzati. Ah, ok, forse sì. Allora. Devo fare un giro salvezza? Sì, salvezza sulla costituzione, 15. Va bene. Sono 4, facciamo 4. Uno mi è caduto, aspetta. Un soldato? No, l'abbiamo recuperata. È lì. Ah, grazie. E tra l'altro non ho tirato l'altro mio dado. Ecco, infatti un po' che lo tiravo. Lo passa uno. 32 danni, chi l'ha passato 16. Chi l'ha passato 16. Ci sta. Ah, comunque le prende. Sì, certo. Questo non è l'incantesimo di merda, ma un po' più. L'ultimo squalo, provo l'ultimo tentativo su di te. 5 danni. E poi se ne va. Anzi, no, potrebbe stare lì. Attaccare fino alla fine. 5. Rimane lì. Un altro Thunder. Veramente. Non lo passa. Stavolta gli faccio. Segnate tutte base. Queste cose. 4 danni. Che schifo. Quindi ora vi siete scaricati tutti gli incantesimi e tutto il coso. Io in realtà, non avendo avuto l'arco, non ho sparato frecce, le ho. Mi sono fatto un Thunder with base. Intanto sono arrivate anche altre scialuppe che sono riuscite, però hanno perso un po' di qualche uomo nell'assalto. Però nessuna è stata assaltata come voi. Più che altro la nostra barca non può tornare indietro. Ma... potete ripararla anche quella, in realtà non è difficile da riparare. Ho fatto un cura ferito. Però ci vuole un po' di legno, semplicemente. Di secondo livello ho usato qualcosa. Vabbè, penso che lui sia piuttosto abile a ripararle. Chi è? Kappa. Chi è? Comunque. Cioè lui dice davo ordini, ok, però marinaio comunque. Vabbè, non ce la potete fare. Va bene, ragazzi. Io ho ancora 5 incantesimi. Fine, ne ho usati 2, 3, 4. Mi sa che a questo punto vi farò fare un'altra sessione di combattimento per poi vi farò salire. No, beh, magari vi faccio salire a metà della. Ma mi porto i cadaveri degli squali e arriva. Se vuoi, puoi farlo. Ecco, un Thunder, questi sono tutti, dovrebbero essere tipo emersi lì, tipo dinamite, che ti piace con la dinamite. Puoi prendere del tempo per portarteli un sì, non paio, tutti, portarti un paio. Sì. L'infilzo con la lancia, niente. Va bene, ragazzi. Al principio. Oddio. Allora, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Tra l'altro, io non ho neanche guardato eventuali commenti, se c'erano, non lo so. No, non c'è. Non credo. Sono arrivati un po' tardi, eccetera. E ringraziamo però tutti i nostri amici che ci hanno seguito per questo decimo episodio. Cioè? Non penso purtroppo oggi per gli orari. Beh, beh, un commento: 29 visualizzazioni da poco. Vabbè, un commento di chi? Catta. Era ora. Ok, va bene. Ora non è più il suo compleanno, ma salutiamo anche Arci, che era il suo compleanno ieri. Dovevi farle in diretta in lo puntata. So, abbiamo perso un po' di tempo. Così. Va bene, ragazzi, ci aggiorniamo allora per le prossime sessioni. Questo era il decimo episodio di Coloni. Che sappiamo già quando ci vedremo. Ma sarà, è vero. Sabato, esatto, sabato 4... 4 alle 4 sì. Sabato 4 forse alle 4 no, dopo pranzo. Ah, hai detto sarà pomeriggio. No, pomeriggio. Mm-hmm. Pomeriggio sarà presumibilmente sì, dalle 4 sì. O forse 4 e mezza, vi dico. Ci aggiorniamo fino magari 7, 8, quando riusciamo, insomma. E vediamo anche, insomma, la disponibilità di ognuno. E tornerà Urban Heroes con il cellulare di sì, però sto prima della diretta, è successe varie cose. E... è stata l'ora più intensa, quella che voi non avete visto. Esatto, torneremo con Urban Heroes, appunto il 4 di novembre. E vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che potete continuare a seguirci sulla pagina Facebook di Tycoons & Dragons e quella di RIGDR sul blog, che è rigdr.wordpress.com. E un po' sul canale YouTube, in realtà ultimamente non ho caricato un cazzo, ma poi possiamo tornare. Ultimamente no, ultimamente sono stato un po' scarso. E sempre di RGDR. E su Twitter ovviamente, Tycoons & Dragons, siamo sempre non particolarmente attivi, ma vi teniamo aggiornati quando si fa la sessione, insomma. Detto questo, vi ringraziamo per averci seguiti e vi diamo appuntamento alle prossime sessioni. Ciao! Ciao! Ciao. Fermiamo tutto! Il podcast. Podcast arriva sempre dopo. Ha sempre dei supplenti. Oh cazzo. No, no, si è terminato da solo facendo così. Credo. Ah, poi The One Ring, fondamentale. E poi The One Ring. Ora. Anche perché più tempo facciamo passare, più ci scordiamo quel poco che abbiamo fatto. Sì, non sappiamo un cazzo. Vabbè, tanto. Non era molto. Va bene, amici del podcast, grazie anche a voi per averci seguito e alle prossime con Tycoons & Dragons.